Tempo di Sport con Carlo Genta. Buonasera, buona domenica a tutti. Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia. Siamo alle ultime pagine di questo campionato. Oggi c'è un compagno di viaggio, c'è con me Pietro Scibetta. Ciao Pietro, da Eurosport, per vivere insieme queste ultime appunto pagine di campionato con Milan e Juventus che stanno entrambe vincendo. Il Milan a Siena grazie ad un 1-2 di Cassano e Ibrahimovic tra il 26esimo e il 29esimo del primo tempo, ma già la Juve era in vantaggio dopo 16 minuti a Novara con gol di Vucinic, e a questo punto il punteggio è di 4-0 per i bianconeri, con Vucinic scatenato, con Pirlo che sta dirigendo praticamente ogni singolo pallone di questa partita, mai in discussione. In realtà, dicevo, 16esimo Vucinic, 40esimo Boriello in tuffo su cross di Giaccherini, quindi in apertura di ripresa Vidal, di nuovo lui, tap-in dopo una ribattuta di Fontana sul solito Vucinic, che fa 4 al 19esimo, sempre su ribattuta di Fontana, questa volta su Giaccherini, non sicurissimo il portiere novarese. Va detto che, insomma, oggi Juventus Day lì a Novara, in tribuna Boniperti, Michel Platini, come ampiamente previsto. Il Milan in questo secondo tempo sta più che altro amministrando il vantaggio con un po' di magone, mi sembra di capire, di grande preoccupazione, perché non vedo come questo scudetto possa scivolar via dalle mani della Juventus, che chiuderà il campionato con le ultime tre partite, che sono in casa con il Lecce, a Cagliari, e in casa con l'Atalanta, che sta vincendo 2-0 con la Fiorentina, gol di Dennis e Bonaventura, e si sta così salvando. Anche perché buon per la Fiorentina, buon per il Genoa che oggi ha perso di nuovo 3-2 a Bologna, c'è un mezzo suicidio, che è quello interno del Lecce, che sta perdendo 1-0 con il Parma, gol di Giovinco su punizione. A Milano c'è Inter-Cesena, abbiamo visto un po' di tutto. L'Inter che ha dominato il primo tempo costruendo diverse palle gol, per lo più sprecate da un imbarazzante Pazzini, che è stato sostituito nella ripresa da Milito. L'Inter è passato in svantaggio però al 12esimo della ripresa, dopo che Iaquinta aveva colpito una traversa, quindi primo campanello d'allarme. Poi al 12esimo Ceccarelli, un diagonale deviato da Nagatomo, che inganna Castellazzi, che oggi gioca al posto di Julio Cesar. Al 14esimo segna Obi con una deviazione molto evidente di Von Bergen a spiazzare Antonioli. Al 27esimo Zárate, e insomma devo dire che Stramaccioni è bravo ed è anche abbastanza fortunato. Zárate è appena entrato, attenzione, occasione per il Lecce che però non sfrutta. Zárate è appena entrato in campo, segna di testa dopo una lunga azione su un cross da destra di Guarin. Dunque Pietro, botte e risposta tra Juventus e Novara, botte e risposta tra Juventus e Novara, ma la Juventus ha la faccia e quasi il linguaggio del corpo di chi ormai ci crede, al di là della Milan conto. Botta risposta, non sì. Arrivano là. Sì, no, chiaramente. Sì, no, è chiaro che sono due squadre con uno stato d'animo profondamente diverso, e la Juventus ci crede, ma giustamente. Infatti era abbastanza singolare il continuo rinviare, no, questa famosa parola scudetto nel corso delle settimane. Era ovvio che la squadra ci credesse, era ovvio anche, anche giusto che la squadra ci puntasse a vincere questo campionato. E obiettivamente, quando vedi giocare e quando vedi proprio muoversi i giocatori del Milan e quelli della Juve, capisci che c'è una differenza emotiva. Il Milan gioca come una squadra che sente di averlo perso questo campionato per motivi vari ed eventuali, infortuni, sfortuna, tanti punti lasciati scivolare via. La Juventus aggredisce le partite con la certezza di vincerle. Sì, ecco, sì, è proprio un linguaggio del corpo differente, cioè c'è una convinzione diversa, oltre che un passo diverso tra le due squadre. A proposito di passo, allarghiamo il discorso al resto di questa domenica dello sport, che non vive di solo calcio, naturalmente, perché oggi c'era Jerez, Gran Premio, seconda tappa del motomondiale, dopo un venerdì in cui insomma si era creduto nella possibilità di qualcosa di buono da parte di Valentino Rossi. Oggi un'altra debacle di Valentino: vince Stoner davanti a Lorenzo, terzo Pedrosa, quarto Dovizioso, le Ducati indietro, ottavo Hayden e nono Rossi. In settimana abbiamo assistito al ritiro di Guardiola, che ha scelto il momento giusto, tutto sommato, secondo me, ma poi ne parleremo ampiamente anche con gli ascoltatori, per dire adieu o adios, non lo so se questo possa essere il momento della riflessione anche per Valentino Rossi, per questo lo chiedo al mio amico Roberto Ungaro, direttore di Riders. Ciao Roberto. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Cosa ha detto la corsa di oggi e questo la weekend? La corsa di oggi, se parliamo di Valentino, che la luce in fondo al tunnel non c'è. Non c'è perché è ancora a 34 secondi dalla fine, si sperava nell'acqua, ma l'acqua non c'è stata. E è andato un po' meglio che il del Qatar, però Aiden ha lottato più di Valentino, gli è davanti per 14 secondi alla fine, ma ottava e nona, le due Ducati non ci sono, non è così facile risolvere i problemi. Ricordiamoci che è al debutto quest'anno il telaio su una moto che non ha mai avuto. La Ducati è fatta da due cose, dal motore a V a L e dal fatto di non avere il telaio, appunto. Una delle due cose hanno già rinunciato, le hanno fatto il telaio come una moto giapponese, sì. Rimane la V. Però il problema è appunto che il motore nasce per essere portante, cioè si incarica, si assume il problema delle rigidezze, no, della moto. E allora fargli attorno una pelle, un telaio, uno scheletro, non è come partire da zero su un foglio bianco dove fai motore e telaio insieme. Quindi non dobbiamo stupirci che una moto col primo telaio vada bene subito, c'è da penare. Valentino l'ha dichiarato, non la capisce. E la cosa migliore, cioè, rispetto al passato di buono, c'è che le modifiche un po' si sentono più rispetto a prima. E poi il motore è molto brusco, motore 1000 molto potente, Ducati la prestazione è sempre venuta prima di tutto, l'erogazione devono ancora trovarla. Sì, mi sembra si sia indirizzati, è molto presto, però verso un lungo duello tra Stoner e Lorenzo, Roberto. Sì, allora, oggi Stoner ha fatto vedere come sarà il campionato, perché in una pista lui indigesta, non ha mai vinto, ha fatto delle qualifiche opache, ha lasciato che si scatenassero i due protagonisti, Pedrosa e Lorenzo, è partito dietro, e però aveva l'asso nella manica, ha gestito fino alla fine e poi gli ultimi due giri ha messo il turbo e per Lorenzo non c'è stato niente da fare. È incredibile, spettacolare vedere come guida, è veramente, fa venire la pelle d'oca. E invece Lorenzo è completamente diverso, guida chirurgica, molto più pulito, raccorda tutte le curve, però io penso che il campionato è scritto e solo un problema al braccio potrà fermare Casey Stoner. E il futuro invece di Valentino Rossi, andiamo avanti con questa Via Crucis, Roberto. Cioè, sì, secondo anno di Via Crucis. Guarda, molto interessante è il tweet che ha mandato ieri Marco Melandri, dove dice, molto onesto, c'è stata questa questione, lui dice: non ho il talento di chi ha vinto 9 mondiali, ma ho avuto l'umiltà di aver rinunciato a un milione di euro e rimettermi in gioco, senza scuse e senza l'appoggio della stampa, della mia. È una vittoria, lui dice, con se stesso, è riuscito a crederci ancora. In effetti ricordo tutti la stagione dove lui e la Ducati avevano divorziato, sì. Dove lui si trovava costretto ad andare a correre quasi come un mitra puntato, che è la peggior cosa che possa fare un pilota. Io posso dire che Valentino comunque lo si vede che un po' rinuncia, cioè non ci mette del suo per arrivare lì, ma l'ha dichiarato lui stesso, lui dice: ammiro, nell'intervista dopo gara lo ha detto lui con l'aggettivo giusto, che poi ha ritirato, ha detto: Aiden è coraggioso, cioè Aiden, come diciamo noi in gergo, mette la pelle al sole, lui è soprannominato never give up, mollare mai, ma è proprio la sua caratteristica. Valentino sa dove può essere, ma non ha lo strumento per essere là e non vuole rischiare, non vuole cadere. Infatti sull'acqua, che è un terno all'otto e rimescola le carte, vedi che viene fuori, ma non si può sperare sempre nell'acqua. Eh sì, Pietro. Sì, no, è chiaro che è quasi una pena, no, vedere un campione assoluto come Valentino in queste condizioni, però c'è forse anche un briciolo di ostinazione, insomma, tra sia dalla parte della scuderia che da parte sua nel voler credere magari a qualcosa che non sta venendo, non sta riuscendo poi alla prova dei fatti. Il problema è emerso, cioè la gestione della sua squadra, che si è portato dietro da Yamaha, che è una squadra eccezionale ma ha un'esperienza sempre giapponese, ripetiamolo, non si trova con i vertici della casa bolognese, che hanno un'altra impostazione. La Ducati è proprio un caso a parte, è qualcosa che non può essere assimilabile al metodo giapponese, e sono più snelli, più rapidi a intervenire, però hanno sempre ragionato con il loro modo di fare, hanno dato carta bianca a Valentino, quindi non gli si può dire niente, non hanno fatto le vacanze a Natale, infatti tanti sono gli appassionati di Ducati che guardano male Valentino perché dicono non sputare nel piatto in cui mangi. Sì. Io mi metto anche nei panni di un pilota, però quando, se il pilota non è convinto di testa, non, è un calvario e non c'è modo, quindi non voglio dare tutte le colpe solo a Valentino. Io vedo un matrimonio che è impossibile che si risolva, c'è di mezzo un contratto più di 10 milioni di euro, non si può risolvere così, ci sono le penali, però da parte degli appassionati io spero di non subire questo non spettacolo fino alla fine, perché la gara di Assen Superbike di domenica scorsa, ragazzi, è stato qualcosa di 7-8 potenziali vincitori di Mansch, sorpassi, una cosa. In Qatar dobbiamo dire grazie al guanto nuovo stretto di Casey Stoner, che lo ha rallentato sul finale, perché sennò sarebbe stata una gara veramente molto noiosa e monotona. Anche questo è un po' meglio, però non c'è stato lo spettacolo che di sotto si è abituati. C'è stata anche la CRT, ma inquadrata una volta, non si sa chi abbia vinto, abbiamo visto solo la rottura di Depunier. È vero che è il futuro della MotoGP, è da mettere a punto. Ottimo Cracio, io devo dire che questo ragazzo inglese che ha vinto il mondiale Super Sport nel 2009, ha fatto quinto nella Superbike, è il miglior debuttante l'anno scorso, sentiremo veramente parlare di lui. Mi piace, ha una guida vecchia maniera, tipica inglese, oltre i problemi, non sta lì tanto per il sottile, avete visto davanti a Dovizioso, suo compagno di squadra, è vero che aveva la gomma dura, Dovizioso aveva la morbida, quindi sul finire si era deteriorata, però ha la stoffa per venire fuori, è il primo escluso dal podio, siamo alla seconda gara, aspettiamoci grandi cose da questo pilota inglese. Direttore, un'ultima domanda, prima però do un paio di aggiornamenti: due gol a Lecce, uno lo ha segnato il Parma portandosi sul 2-0, poi il Lecce ha accorciato le distanze, dunque Lecce 1 Parma 2, ha accorciato anche il Siena sul Milan, gol di Bogdani al 39esimo, ma il Milan sta provando a controllare la partita. Una parola anche su un ragazzino di 16 anni, Romano Fenati, che in Moto3 oggi ha sverniciato tutti, come avrebbe detto un giorno Valentino. Finalmente il frutto della federazione di 3-4 anni a questa parte, abbiamo forse un dopo Valentino, ha dato 4 secondi, ha ragionato, quello che fa specie non è tanto la vittoria, perché al debutto nella gara scorsa in Qatar secondo già fa capire quanto è alto il suo potenziale, è come ha ragionato su questa pista asciutta bagnata, era una chiazza unica, non ha rischiato, è stato lì, gli ha fatti andare, poi ha sorpassato, ha preso e è andato, cioè come se avesse veramente 10 anni di esperienza alle spalle. L'Italia è tutta nelle sue mani, ragazzo semplice, onesto, di Ascoli Piceno, il nonno che l'ha messo in moto, non ha grilli per la testa, piace molto e siamo tutti con lui. Grazie Roberto, grazie direttore. Grazie a te Carlo, un saluto a tutti. Ciao Roberto Ungaro, e dunque vale la pena riepilogare i risultati, perché sono successe un po' di cose mentre stavamo chiacchierando con Roberto Ungaro, naturalmente tutti i discorsi che possiamo riaprire, perché a me un Valentino Rossi così mette una tristezza infinita. 800 24 00 24 il numero verde, non dico che sta macchiando una carriera inarrivabile, però non posso vederlo continuare in questa sofferenza su una moto cui vogliamo molto bene, ma è la moto per lui sbagliata, o forse sono le motivazioni a non esserci più, o forse si è già arreso a questo destino. 800 24 00 24, messaggi 349 238 6666. Caro Piero Cibetta, abbiamo visto dunque Bogdani che ha provato a riaprire la partita a Siena, ribattuta su ribattuta di Abbiati dopo una conclusione di destro, tap-in di Bogdani, ma il Milan in qualche modo sta provando a controllare, anche se vale il discorso che facevamo prima, dalla sensazione di una squadra che ok vuole togliersi ogni remora, vuole togliersi ogni dubbio, non vuole avere rimpianti, diciamo, non vuole avere rimorsi, vuole togliersi ogni rimpianto, però non ci crede più tanto. È finita la partita di Novara praticamente, anche se si sta ancora giocando, la Juventus sta continuando a bombardare impietosamente la porta del Novara, ma si resta sul 4-0. Attenzione, perché il Parma in contropiede prova a dare maggior rotondità al risultato, ma comunque un risultato importantissimo, quello di in chiave salvezza, quello che sta maturando a Lecce. Lecce 1 Parma 2. Ha segnato Paletta su un lancio da sinistra a tagliare fuori l'intera difesa di Serse Cosmi, e il difensore col vizietto argentino, il vizietto del gol, ha scavalcato con un pallonetto l'uscita del portiere leccese, poi Tomovic di testa in anticipo su un angolo battuto dalla sinistra, ma si resta con il vantaggio del Parma. Ricordo l'Inter che conduce 2-1 con il Cesena in casa e l'Atalanta che sta vincendo 2-0 con la Fiorentina, che questo non avevamo detto, ma poi avremo modo di riprendere ogni tema di questa giornata, compreso il rigore sbagliato da Jovetic al 21esimo del primo tempo, rigore che poteva riaprire la partita per una pessima Fiorentina al solito. Più che Nocerino, Nocerigno, che difende la palla in mezzo a tre difensori, ne salta un paio e la spedisce all'incrocio dei pali per il sospiro di sollievo del Milan. Visto che gol? Sì, è una stagione che si conferma clamorosa, almeno per lui, nel Milan, davvero. Rapporto qualità-prezzo, forse il miglior acquisto di sempre. Di sempre, non c'è, esatto, non c'è dubbio. Quanti gol Nocerino te lo ricordi? Direi 10 a questo direi punto, 10, sì, sì. Quindi doppia cifra per lui. C'era anche un gol litigioso che poi non gli è stato attribuito, successo qualche mese fa, però insomma 10 gol, davvero una stagione pazzesca per Nocerino, che ne aveva segnati 12 credo in tutta la sua carriera prima di arrivare al Milan. E ci hanno visto giusto, con quei 500.000 si sono portati a casa un centrocampista da 10 gol. Siena ci prova, mi sembra comunque 4 minuti di recupero, ma partita in frigo. Tra i tanti temi di oggi, al di là del calcio, su cui poi avremo modo di discutere con tutti gli ascoltatori, di sentire le voci dopo partita come sempre, 800 24 00 24, vi ricordo fin da ora il numero verde. Nella notte abbiamo visto diverse partite NBA e abbiamo anche insomma visto un canestro decisivo di Kevin Durant contro i campioni. La partita più bella prime di playoff che sono cominciate ieri sera per noi, insomma. Sì, ieri sera per noi, dunque Oklahoma che si porta in vantaggio su Dallas, sui campioni uscenti. Abbiamo visto però anche un episodio che rischia già di essere chiave per tutti i playoff, sì, ed è accaduto a Chicago. Sì. Ed è accaduto a Chicago, dove sul finire di gara 1 tra i Bulls e i 76ers Derrick Rose si è fatto male al ginocchio sinistro, stagione finita per lui con infortunio al crociato, cosa che peraltro è successa anche a un altro giocatore sempre ieri, Iman Shumpert, il rookie dei New York Knicks, che era per tutti l'uomo da mettere su Dwayne Wade per provare ad arginarlo, perché fermarlo non si può, però soprattutto per quanto riguarda Rose viene a mancare quello che è ancora l'MVP dell'NBA in carica, anche se quest'anno ha mancato tantissime partite, e questo credo pregiudichi in maniera totale le possibilità di titolo per i Chicago Bulls, che pure hanno chiuso la stagione regolare con il miglior record insieme a San Antonio, giocando 27 partite senza Derrick Rose e tantissime anche senza Richard Hamilton, che era il principale rinforzo estivo, però poi queste partite qui le devi vincere con il tuo capo in campo, e se Rose non c'è dubito che Chicago possa farcela. E altra a sorpresa che arriva da Indiana. Sì, dove hanno vinto gli Orlando Magic, che stanno vivendo una stagione, che dire, travagliata e dire poco, dove Dwight Howard è riuscito a rendersi più antipatico di LeBron James agli occhi dell'opinione pubblica americana, che sembravano davvero impossibile. E poi è uscito di scena anche per infortunio, però insomma una squadra decisamente mutilata, perché insomma senza il miglior centro della NBA andare solo a pensare di vincere gara 1 in casa dei Pacers, che hanno fatto una stagione eccezionale, era molto difficile, peraltro tenendoli a 77 punti, davvero un lavoro super della squadra di Stan Van Gundy, che dovrebbe avere le settimane contate, ecco, se è vero quello che ci raccontano dagli Stati Uniti. E stasera alle 9:30 italiane, se non ricordo male, c'è Danilo contro Kobe. Esatto, e senza Meta World Peace, così magari ha meno speranze di beccarsi una gomitata in faccia. Un po' meno rischiosa fisicamente, esatto. La partita, esatto. È finita a Novara, Juventus batte Novara 4-0 ed è risultato finale per l'appunto che porti i bianconeri vicinissimi al titolo. C'è un'espulsione anche a Lecce, se non ho visto male, quella dell'autore del gol del Lecce, Tomovic. Ricordo che il Lecce sarà ospite della Juventus nel turno infrasettimanale e sarà un Lecce, onestamente, visti i risultati di oggi, disperato. Ora c'è invece il quarto gol del Milan, siamo al quarto e ultimo minuto di recupero, lo segna Ibrahimovic su assist di Cassano. Cassano e Ibrahimovic che hanno in pratica prodotto 3 dei 4 gol del Milan, perché il primo di Cassano è arrivato su un tiro di Ibrahimovic non trattenuto colpevolmente da Berkic, In occasione del raddoppio è stato proprio Cassano a servire ad Ibrahimovic la palla del 2-0 e ora ha rifatto il verso con un assist da sinistra per Ibra, che da lì proprio non poteva sbagliare. Cassano, che ovviamente è la storia di questa domenica, sì, insomma, perché è tornato al gol, è tornato a diventare un giocatore importante. Sappiamo, certo, benissimo ovviamente cosa gli è successo qualche mese fa. Ibrahimovic con questa doppietta direi che ipoteca anche il titolo di capocannoniere per questo campionato. Anche, forse solo questo. Esatto, sì, probabilmente solo. Che si avvia dopo 11 anni a non vincere uno scudetto. Giacomo Bagnasco, buongiorno. Buongiorno Carlo, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo un paio di minuti per raccontare invece una farsa rugbistica che rischia di consumarsi agli occhi della Celtic League. Me la racconti? Ma in sostanza succede che ci sono gli Aironi, una delle due squadre che partecipano per l'Italia al Pro 12, a cui è stata tolta la licenza per partecipare dall'anno prossimo al Pro 12, però l'unica squadra, l'unica realtà che si è presentata per sostituire gli Aironi è il Viadane, il club del Viadane. In sostanza gli Aironi erano grande maggioranza, il Viadane era l'azionista di maggioranza, largamente l'azionista di maggioranza degli Aironi, e adesso se gli Aironi non ce la fanno il Viadana si ripresenta. C'è una serie di contatti con la federazione, si sta parlamentando, però è chiaro che a questo punto non solo passami la fatta, la montagna avrebbe partorito il topolino, ma sembra effettivamente molto difficile riuscire a spiegare agli anglosassoni e ai celtici che cosa è successo in Italia in questo mese, sì, e che cosa succederà se si continuerà a giocare a Viadana. Io ti darei anche qualche risultato, certo, perché c'è anche dell'attualità. Partiamo, sì, dall'Italia, campioni d'Italia femminili, ragazze venete della Riviera del Brenta che hanno battuto in finale il Benetton 26-20. Semifinali scudetto gara 1, si è già giocato a Rovigo, il Rovigo ha battuto il Calvisano 14-8, stanno per scendere in campo Mogliano e Prato. Invece semifinali secche per quanto riguarda la Second Cup, la Champions League del rugby, l'Ulster irlandese ha battuto l'Edimburgo 22-19, alla fine del primo tempo in Francia il Clermont Auvergne sta vincendo 12-9 sull'Esper. Se vince il Clermont Auvergne sarà la sua prima finale. Se vince il Leinster sarà la prima finale tutta irlandese. Ultimi risultati in una Challenge Cup che corrisponde un po' all'Europa League, che è tutta francese con disdoro degli inglesi che non hanno neanche una squadra nella semifinale delle due coppe, Biarritz-Brive 19-0, Toulon Stade Français 32-29, decisivo un drop di un signore che si chiama Johnny Wilkinson, che con un drop di destro fece vincere l'Inghilterra ai mondiali nel 2003 e stavolta invece il drop l'ha fatto di sinistro, tanto per variare un po'. Grazie Giacomo. Grazie a voi. Già sentito questo tal Johnny Wilkinson. Comunque, finite anche le partite in Serie A, come mi conferma Giorgio De Luca dalla regia. Nocerino quest'anno 10 gol, come Kakà nel suo primo anno al Milan, questo fa abbastanza impressione. Dunque finali, Atalanta batte Fiorentina 2-0, l'Inter la spunta non senza soffrire sul Cesena 2-1, il Parma vince 2-1 a Lecce e si salva, di fatto la Juventus vince 4-0 a Novara e il Milan 4-1 a Siena. La corsa continua, anche se io guardo il calendario che per il Milan dice Atalanta in casa, Inter il derby sarebbe in casa dei nerazzurri ma comunque a San Siro, e Novara l'ultima partita. Per la Juventus dice Lecce in casa nel turno infrasettimanale, trasferta con il Cagliari e quindi gara conclusiva in casa con l'Atalanta che è già salva. Questo il prodotto del pomeriggio. 800 24 00 24 invece è il vostro numero verde e cominceremo a chiacchierare anche con Pietro Scibetta subito dopo il giornale radio. E allora torniamo, sempre Giorgio Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia, con me oggi a tenermi compagnia Pietro Scibetta, e siamo qui insieme a leggere anche con il vostro aiuto, perché chiedo il vostro aiuto anche perché la corsa al terzo posto diventa una cosa davvero cervellotica, leggere questa quart'ultima pagina di campionato in attesa di un'altra partita che potrebbe incasinare ancora di più le cose, a quella quota 55. 800 24 00 24 è il vostro numero verde. Questi numeri invece della giornata, la quart'ultima di campionato, Il Genoa ha perso ancora a Bologna nell'anticipo delle 12:30, non è più capace di vincere il Grifone, che lo ricordiamo dopo lo schifo di domenica scorsa giocherà in parte replicato anche ieri sera all'Olimpico di Roma, come ben sapete, in parte replicato. 30.000 euro di multa alla Roma per la gazzarra, l'ennesima pagina di maleducazione sportiva che abbiamo visto ieri all'Olimpico. Dicevo, il Grifone non riesce più a vincere, non lo fa a Bologna che festeggia invece la sua matematica salvezza vincendo 3-2. Però è una specie di, anche la salvezza è una specie di corsa a Ciappanò, perché il Lecce perde 2-1 in casa con il Parma. Juventus-Milan, duello a distanza, finisce 4-4 in trasferta. La Juventus, con il piglio di chi ci crede, con il passo dei grandi, di quelli che hanno ormai tanta convinzione, vince 4-0 a Novara sotto il naso della sua storia, di Boniperti, di Platini, nel segno di Vucinic e di Pirlo, che dirige l'orchestra. Vucinic invece segna una doppietta portando i bianconeri in vantaggio al 16° su volée meravigliosa di esterno destro su una punizione bassa di Pirlo battuta dalla sinistra. Al 40° Borriello in tuffo su cross di Giaccherini firma il 2-0. Nella ripresa altri due gol bianconeri, al 5° Vidal tapina dopo una ribattuta di Fontana su ennesima conclusione di Mirko Vucinic, che segna la doppietta al 19°. Anche in questo caso Fontana non trattiene un tiro di Giaccherini e per Vucinic è facile 4-0. Juventus, che tra l'altro chiude sempre all'attacco e sempre alla ricerca del gol, continuando a bombardare anche un po' insistentemente, cinicamente, la porta del Novara, ma troppa è la voglia dei bianconeri di cucirsi addosso questo scudetto. Il Milan vince 4-1 invece a Siena, che parte forte perché è una squadra in piena salute, ma oggi una delle notizie di giornata è il ritorno di Cassano, chissà se anche in chiave azzurra, oggi in versione uomo gol al 26° per aprire le marcature su cross da destra di Ibrahimovic. Berkic, portiere del Siena, non trattiene e commette un errore grave che Cassano non perdona, con un facile tocco in rete. Si inventa anche uomo assist invece Cassano al 29° del primo tempo, servendo il suo bersaglio preferito, cioè Zlatan Ibrahimovic, che controlla, quindi sinistro all'incrocio dei pali. Il Siena prova a riaprire nel finale, al 39° segna Bogdani con Abbiati che si allunga ma non trattiene una conclusione di destro e Bogdani segna praticamente a porta vuota. Al 45° Nocerino segna un gol meraviglioso difendendo la palla in mezzo a tre avversari e sparandola all'incrocio dei pali per il suo 10° gol stagionale. Si diceva prima con Pietro Cibetta, gli stessi gol segnati da Kakà nella sua prima stagione rossonera, ma questo è Nocerigno. Esatto. Anche se starei comunque attento a non paragonarli troppo Kakà e Nocerigno. Attenzione, parliamo di cifre, ecco, le cifre sì, sono parliamo solo di cifre, perché poi se no arrivano le querele. Al 49° ancora Cassano a servire Ibrahimovic, che segna il più facile forse dei suoi gol in campionato, Veronica di Cassano, che alza lo sguardo, vede Ibra libero ed è il 4-1 con cui si chiude la partita di Siena. Dicevo del mezzo suicidio del Lecce, che fino a domenica scorsa consideravamo insieme alla Juventus la squadra più in forma del campionato, invece perde due partite consecutive nell'infrasettimanale e oggi ben più pesante con il Parma. 0-0 dopo il primo tempo, 22° della ripresa, Giovinco magnifica la sua punizione ad aprire le danze. Al 33° Paletta porta sul 2-0 il Parma, quindi segna Tomovic di testa su un calcio d'angolo battuto dalla sinistra, ma il Lecce chiude anche in 10 per espulsione dello stesso Tomovic. E la prossima partita del Lecce, indovinate un po' dove sarà? In casa della Juve. In casa della Juve, esatto. con il sangue agli occhi, quindi può andare bene. La difesa leccese che è sempre abbastanza porosa, quindi sì, è difficile che possa resistere agli assalti della Juve. Ma pensa che può andare bene incredibilmente a due squadre che hanno il motore chiaramente spento, come il Genoa e la Fiorentina, che sono due squadre onestamente imbarazzanti, che non danno alcun segnale di vita, no? Alcun segno di vita. Anche la Fiorentina oggi a Bergamo va sotto all'11° con il gol di Dennis. Al 6° della ripresa Bonaventura con una girata in mischia segna 2-0, ha anche la possibilità di accorciare la Fiorentina con un rigore anche abbastanza generosamente concesso da Noveri per una trattenuta di Raimondi su Acosti. Jovetic, che aveva un 5 su 5 fin qui, si fa parare il rigore da Consigli e finisce 2-0. Genoa e Fiorentina sono veramente due squadre che hanno l'elettroencefalogramma piatto e rischiano tra molte virgolette di salvarsi. Anche Palermo non mi sembra vivissimo. Pensa come sono contenti i tifosi del Milan di sentire tutto questo, che hanno perso in casa con la Fiorentina con il gol di Amaury a fine partita. Tra l'altro Amaury che si rivela decisivo per lo scudetto della Juve, però non esattamente come aveva sperato di fare. esatto. L'Inter è un altro caso clinico interessante. Assolutamente sì. 0-0 nel primo tempo con diverse palle gol create dai nerazzurri, che hanno anche giocato discretamente, ma Pazzini conferma che quando per un attaccante è una stagione no, anche le palle gol più semplici vengono fallite. Ne ha sbagliate un paio davvero facili Pazzini. Nella ripresa c'è stata la traversa di Iaquinta all'ottavo, squillo del Cesena, subito dopo il gol di Ceccarelli deviato da Nagatomo. In un'altra situazione, magari con un altro allenatore, volavano giù le arance dagli spalti e Moratti se ne andava a casa. Invece l'Inter riesce a ribaltare la partita, anche perché pareggia subito, segna Obi al 14esimo con deviazione determinante di Von Bergen, e al 27esimo Zarate, appena messo in campo da quest'uomo che stiamo per sentir parlare, cioè Andrea Stramaccioni, a conferma anche di una buona stella, no, dell'allenatore. Assolutamente sì. Segna di testa su un cross di Guarini. Si conferma anche con i risultati altrui, e poi comunque c'è da dire che l'Inter ha sempre recuperato le partite da quando Stramaccioni è in panchina. È successo a Udine, era successo anche col Cagliari, dove ha recuperato almeno un punto dopo essere andato addirittura sotto, insomma. Io tutte le volte che lo vedo sullo schermo non riesco a decidermi se somiglia di più a Mister Bino o a Mourinho, ti dico la verità. 8-0-0-24-0-0-24, Andrea Stramaccioni con Sky. La partita più difficile secondo me, perché era la partita del potenziale presunto, chiamiamolo aggancio tra virgolette, o comunque e spesso c'era capitato anche a Firenze che magari c'era un po' rimasto il colpo in canna al momento della, quindi poi avveniva contro una squadra che era retrocessa domenica, ma secondo me che ha fatto una grande partita anche oggi come l'aveva fatta con la Juventus, e quindi difficile, quindi una vittoria per noi importantissima. E non è la prima volta che questa squadra magari fa bene, non riesce a sbloccare la partita e ha bisogno di essere un po', come dire, pizzicata, subire un gol di svantaggio per reagire. Questa che caratteristica è dell'Inter che stai gestendo tu? No, non è che lo facciamo apposta. Io credo che oggi delle tre partite in casa, soprattutto il primo tempo, si sia vista qualitativamente l'Inter migliore. Abbiamo costruito tantissimo, mi pare erano quasi 14 le conclusioni alla fine del primo tempo. Purtroppo su una ripartenza è stato bravo il Cesena e a portarsi in vantaggio. Ancora una volta si è visto il carattere di questi calciatori e abbiamo ribaltato una partita che era già difficile sullo 0-0, secondo me, e così era diventata difficilissima. E devo dire oggi, grazie anche a un grandissimo pubblico, perché dal gol del Cesena San Siro, invece di abbattersi, ci ha dato una spinta fenomenale, incredibile. Per noi questo è importantissimo. Questa è anche una notizia, no? Perché dicevo, con un altro allenatore sarebbe successo qualcosa di diverso al gol del Cesena. Ma probabilmente in un'altra situazione complessiva di stato d'animo. Sì. È chiaro che adesso l'Inter non perde comunque da 6 partite, ha fatto 14 punti con Stramaccioni in panchina, compresi 3 di oggi, quindi è in una dinamica positiva almeno a livello di risultati. Poi anche oggi obiettivamente nel secondo tempo il Genoa e il Cesena ha avuto più di un'opportunità. Il Moratti che sta parlando in diretta, vediamo. Perché ecco, io credo che lui possa dimostrare in questo momento, possa dare dei risultati positivi, e sarebbe molto favorevole tutto ciò per decidere per la sua continuazione. Che io appoggio, nel senso che per conto mio è una scelta giusta quella di continuare con lui. Questo era Massimo Moratti, non so se prima o dopo la partita. Comunque ogni giorno gli chiedono se tiene Stramaccioni in panchina, chissà com'è contento anche lui, no? di sapere che magari una volta balbetta e quindi dalla prima pagina dell'Indomani quel balbettio viene tradotto in Moratti esita, allora ricontattiamo tutti quanti. Rifacciamo un giro di telefonate, a cominciare da quello che si ferma, ha detto che va in pausa sabbatica e che credo che ha segnato sia la cosa settimana migliore che possa possa fare, secondo me. Vabbè, non c'è dubbio. Poi dovrà anche, questo è un altro discorso che faremo, dovrà anche mettersi a sfidare se stesso, a sfidare il suo passato, perché ovunque vada gli chiederanno nell'immaginario collettivo non solo di vincere ma di riprodurre il Barcellona. Quindi la prossima sfida, secondo me, sarà quando sarà, ma sarà comunque la più difficile anche per un califfo della panchina come Guardiola. Io personalmente sono molto curioso di capire come riuscirà a sbrigarsela, ma ne parleremo tra un po', perché per il prossimo anno gioca a golf. Esatto. Lo ha già detto che vuol diventare anche un professionista, quindi magari speriamo che non ci riesca, perché dai, sarebbe troppo, francamente troppo. Dunque, la classifica, che al terzo posto è qualcosa da mal di testa: Juventus che ha 3 punti di vantaggio sul Milan, ma si reggono 4, come ben sapete, per quell'effetto dei confronti diretti favorevoli ai bianconeri. 77 la Juventus, 74 il Milan. A 55 troviamo attualmente Napoli, Inter e Lazio. Lazio che gioca questa sera a Udine, l'Udinese che, battendo la Lazio, potrebbe aggiungersi però alla compagnia dei 55. Roma 51 mi sembra onestamente tagliata fuori da questo discorso per il terzo posto che va alla Champions League. Parma e Catania 47 salve, Atalanta 46 salva, Bologna 45 salvo, non ancora matematico, ma vabbè. Chievo 44, Siena 43, Cagliari e Palermo 42, poi Fiorentina 41, Genoa 36 a motore ampiamente spento, Lecce 35, Novara 28 non ancora matematicamente retrocesso, è matematicamente retrocesso invece il Cesena che di punti ne ha 22. Io saluto e ringrazio Marco Ansaldo, penna illustre della stampa, il nostro amico. Ciao Marco, grazie. Ciao. Oggi ho visto la Juventus con il linguaggio del corpo di chi vincerà lo scudetto. Sì, direi che a questo punto mi sembra che sia una squadra che sta molto in salute, con un enorme entusiasmo e con la capacità di superare, direi, abbastanza piuttosto agevolmente anche degli ostacoli. Novara non è che fosse gran cosa, oggi poi proprio non si è visto. Però sono quelle squadre che, se comincia a ingarbugliarti un pochino, ti possono creare delle difficoltà. Invece dal gol di Vucinic in avanti sostanzialmente c'è stata una sola squadra, e devo dire che io ormai le ho viste quasi tutte, anzi le ho viste tutte quelle della Juventus, e nelle ultime 5-6 partite credo che Zoff prenderà Buffon prenderà il sussidio di disoccupazione. Sì, oggi ricordo una respinta di pugno che probabilmente sarebbe riuscita quasi anche a noi su una punizione, poco altro. Sì. Scusami, il lapsus di Zoff forse è dovuto al fatto che oggi c'erano Platini, Boniperti, insomma c'era tutta la storia. Era uno Juventus Day oggi, eh? Era una Marcord, infatti vederli in tribuna, lì a Novara con la Juventus che vince 4-0 a un passo dal titolo, mi ha dato veramente la sensazione di essere uno Juventus Day, anche perché francamente Marco io di ostacoli non ne vedo. Lecce in casa, con Lecce disperato sì, ma reduce da 2 sconfitte consecutive, vabbè. Cagliari in trasferta e poi Atalanta già salva in casa, non vedo come. Ma al di là di tutto, sai, io ricordo ancora uno scudetto perso dalla Roma contro il Lecce, e quindi non parliamo poi di quello perso dall'Inter contro la Lazio, per cui non è tanto questo il punto, per quanto sono d'accordo anch'io con te che insomma nella logica non esiste una roba del genere, però è proprio il modo in cui la Juventus sta affrontando le partite, cioè anche a Cesena ha vinto con un gol solo. Però nel secondo tempo il Cesena non ha passato la linea dei 40 metri anzi devo dire che la Juventus di Cesena è stata più impressionante della Juventus di oggi a Novara. Cioè, quando ha cominciato a giocare il Cesena e il Cesena avevano i crampi dopo un'ora e un quarto dal correre, e quelli della Juve hanno alzato il ritmo, quindi c'è una potenza atletica impressionante. L'ultima cosa, Marco, adesso preparati, il Milan vuole togliersi ogni rimorso residuo, no? Oggi a Siena 4-1 nel segno di Ibrahimovic e di Cassano, ti dico preparati perché in prospettiva europei ti tocca scrivere tutti i giorni del Cassano azzurro, azzurrabile, azzurrissimo, tutte queste cose qui, eh? Sì, insomma, sai. Ormai sono anni che un tormentone all'anno non ti manca. E quindi quest'anno che non ci sarà più il tormentone, ma Del Piero resta o non resta, mi becco quello Cassano e la nazionale, insomma, fa parte del mestiere anche questo. Comunque è vero, sono contento per Cassano che si sia ripreso. Sì. Io continuo a pensare che non sia questo fenomeno mondiale che si vuole far passare, però oggettivamente può essere un uomo abbastanza importante, sì, per la nazionale. E a pensarla così siamo come minimo in due. Un nome secco, chi arriva terzo? Chi arriva terzo penso l'Inter alla fine. Io penso il Napoli, su questo non siamo d'accordo. Però scopriamo sì, presto. Il problema dell'Inter è che è ancora la partita col Milan. Però siamo sempre lì, cioè sul è come capito, come per la Juve sul Milan in questo momento, cioè nel senso che c'è una squadra che sta sull'entusiasmo e l'altra che invece sì, perché ha vinto contro il Siena, ma no. E qui è la stessa cosa, cioè secondo me il Napoli si sta mangiando le mani per quello che è successo ieri a Roma. Mentre invece l'Inter ha preso l'abbrivio e è stramacciona verso questo terzo posto. Grazie Marco, buon lavoro. Ok, anche a voi. Ciao, ciao, un abbraccio. Sta per parlare con Sky Antonio Conte, che naturalmente sentiremo, caro Pietro Scibetta. Intanto poi vi do con calma anche la strada verso il terzo posto delle quattro candidate, delle cinque candidate che secondo me sono ridotte a quattro perché la Roma è tagliata fuori. Ma prima Conte con Sky in diretta. Si aspettava una partita diversa proprio per l'atteggiamento del Novara che non si è chiuso, e quindi questo ha agevolato sicuramente la manovra della Juventus, che ha chiuso la partita di fatto già nel primo tempo. Insomma, è stato così facile come abbiamo visto? Ma sai, abbiamo trovato il gol subito, magari avessimo trovato il gol subito a Cesena avremmo visto magari anche quello che è successo oggi. Facile, io dico sempre il facile viene al 95esimo, non dimentichiamo che tre giorni fa il Novara aveva battuto la Lazio che è in corsa per il terzo posto per la Champions, e quindi noi abbiamo affrontato una squadra oggi che era animata e aveva voglia comunque di metterci in difficoltà, di farci lo sgambetto. Stiamo bene. La squadra è concentrata e determinata e sono molto contento perché al di là della vittoria io penso che oggi che abbia visto la partita abbia visto veramente giocare una squadra molto molto bene a calcio con grande intensità, con grande determinazione. Siete a due vittorie da quello che lei ormai non chiama mai scudetto ma chiama sogno. Sì, lo sappiamo benissimo perché i calcoli li sappiamo fare anche noi. Ci stiamo avvicinando nella maniera giusta, vincendo, sapendo che abbiamo un grandissimo avversario come antagonista, sapendo anche però che ci siamo davanti noi e che siamo noi i padroni del nostro destino. A proposito di calcoli, si parlava di pareggite e arrivate da 8 vittorie di fila. Avevate difficoltà a far gol, in queste 8 partite ne avete fatti 23, ne avete subito uno e segnano anche gli attaccanti, e si diceva che non segnavano. Qual è stata la molla che ha fatto scattare questa striscia pazzesca? Ma la molla che c'è tante volte, comunque bisogna cercare sempre il pelo dell'uovo anche in una squadra che è imbattuta da 35 partite consecutive, quindi noi sul nostro cammino abbiamo trovato sempre qualcuno che ha tirato fuori un però, e questo non ha fatto altro che caricarci ulteriormente e darci ancora più forza, più cattiveria, più voglia. C'è stata questa crescita quotidiana, settimanale, mensile di una squadra che ha veramente voglia di fare qualcosa di super straordinario. Non si tratta di trovare un però, Pietro. In effetti la Juventus ha vissuto quel periodo di crisi senza perdere una partita, incastrando una serie di pareggi, era calata fisicamente, faceva fatica a trovare il gol, è riuscita a scollinare indenne anche per demeriti altrui, grosso modo, e poi adesso i numeri sono quelli che avete sentito. In queste 8 partite, 23 gol, uno solo subito, tutte vittorie e scudetto ad un passo. A proposito, gli juventini sono già in giro a festeggiare, è possibile che nessuno voglia far sentire la sua voce? 800 24 00 24, per i caroselli mi sembra un po' presto, no, amici. Chiaramente un po' presto, però sì, dicevi giustamente del calo che ha avuto la Juve a un certo punto, perché in tanti dicevano, soprattutto nella prima metà di stagione, che la Juve aveva il notevole vantaggio di correre più degli altri, ma c'era sempre questo dubbio. Però quando poi cominceranno a rallentare verranno fuori dei limiti tecnici che magari hanno. Loro hanno saputo resistere a questa flessione per poi riesplodere proprio da un punto di vista fisico, atletico e anche di impatto, di densità fisica proprio sulle partite. Quello che è successo con la Roma in particolare è abbastanza impressionante. Però effettivamente la Juve poi dimostra di essere creatura totale del suo allenatore. Certo. Un allenatore che comunque, come Ibrahimovic, aveva la sua striscia vincente in termini di campionati. Ricordiamo Conte col Bari, col Siena, insomma, di vittorie ne ha anche lui, non sono ovviamente paragonabili a quelle dello svedese, però dimostra di avere questa impronta di allenatore vincente, evidentemente, e io credo che uno degli episodi che meglio lo rappresentino sia appena arrivato, fa il mercato e manda via Ziegler, appena preso dalla dirigenza, dice: no, io questo non lo voglio, voglio una squadra in un altro modo, voglio un giocatore che giochi in un altro modo. Sì, per la verità poi gliene ha fatti prendere anche degli altri. Verissimo, che verissimo. Non hanno messo il naso in campo. Verissimo. Io ti dico, non posso nascondermi, ho avuto grandi perplessità su Conte, che tu dici aver avuto successi con il Siena, con il Bari, con altre realtà, ha avuto anche, ha preso anche delle buche come quella con l'Atalanta. Assolutamente. Soprattutto non mi sembrava l'allenatore ideale per in una situazione onestamente difficilissima, no? Come quella della Juventus. Certo. Io vedevo un uomo forte per quella panchina, in grado di catalizzare comunque su di lui anche le eventuali critiche. Invece Conte è stato bravissimo a... Te non pensavi che fosse Conte quell'uomo forte? No, non pensavo che fosse Conte, ma proprio io vedevo in quel ruolo, dopo stagioni così drammatiche sportivamente, qualcuno che conoscesse già bene la strada per gli scudetti, per le coppe, eccetera, eccetera. Sai, lui magari non la conosceva come allenatore, però conosce la Juventus come pochi altri al mondo. E io credo che in questo senso sia stato l'uomo forte per la Juve, perché prima di tutto gli juventini hanno creduto in lui e la squadra ha ritrovato quel senso di appartenenza che in realtà aveva smarrito nelle ultime stagioni, in cui aveva fatto bene, male, ma quello non era il punto. Sembrava una squadra obiettivamente anonima, certo, e senza né capo né coda. Poi insomma è partito subito forte, ha mantenuto il passo, ha capitalizzato l'assenza dalle coppe, che comunque una certa differenza l'ha fatta per una squadra che doveva trovarsi, non ritrovarsi. E quindi tant'è. Adesso il prossimo turno, che è un infrasettimanale, ultimo della stagione peraltro di sera, vede due anticipi con Chievo-Roma e Napoli-Palermo martedì, e qui si parla di terzo posto. E poi il 2 maggio alle 20:45 Catania-Bologna, Cesena-Udinese, Fiorentina-Novara, Genoa-Cagliari a porte chiuse, ricordate, Juventus-Lecce per l'appunto, Lazio-Siena, Milan-Atalanta e Parma-Inter. Questo il programma del turno infrasettimanale. Poi vi dico invece, ve lo dico prima, così ci ragionate sopra e poi mi dite la vostra. 800-24-00-24, numero verde. La strada per la Champions League, per il terzo posto, questa sera c'è Udinese-Lazio. Per quanto riguarda la Lazio, avrà appunto la trasferta di Udine, la partita in casa con il Siena, trasferta a Bergamo con l'Atalanta già salva, e all'ultima giornata c'è all'Olimpico il replay del 5 maggio, bravissimo, Lazio-Inter. Il Napoli invece, dunque Palermo, quindi Palermo in casa, Bologna in trasferta e Siena in casa, quindi mi sembra un cammino non difficilissimo quello del Napoli. L'Inter, come detto, giocherà a Parma la prossima, poi ha il derby con il Milan e poi appunto la partita dell'Olimpico con la Lazio, quindi mi sembra il calendario più complicato. L'Udinese, dopo la gara di stasera, andrà a Cesena già retrocesso, giocherà con il Genoa, presumibilmente disperato in casa, e trasferta a Catania già salvo all'ultima giornata. Lasciamo stare la Roma perché secondo me è tagliata fuori dal discorso terzo posto. Sono sempre qui con Pietro Scibetta e poi rispondo anche ad alcuni simpatici SMS. Intanto andiamo a Siena da Massimo Sollazzini. Ciao Massimo. Ciao Carlo. Allora, Milan che vince 4-1, Milan che però insomma dà l'impressione di essere quello che non vuole avere rimpianti, rimorsi. Sì, ne parliamo con un collega, Enrico Curro di Repubblica, qua con noi. Beh, sicuramente una grande conferma oggi per l'intesa Cassano Ibrahimovic, direi su tutto, un po' tardi nell'economia della stagione forse. Sì, secondo me anche la conferma che al di là di Cassano Ibrahimovic non c'è molto nel Milan di livello veramente alto. Loro si sono accesi, hanno acceso il gioco del Milan, hanno fatto i gol quando volevano, praticamente in una partita a ritmo molto molto lento. A questo ritmo Cassano fa quello che vuole, se il ritmo si alza bisogna vedere, ma a questo ritmo sicuramente sì, e l'intesa tra i due, come hai detto tu, è ottima. Però il resto della squadra mi sembra un po' tentennante, non mi sembra che ci sia una qualità molto alta. Se il Milan farà meno, come pare intenzionato a fare di molti veterani, non credo che rimanga moltissimo e credo che il Milan dovrà rifare di sana pianta buona parte della squadra, a meno di non accontentarsi di un livello che non è il suo, o di sperare che accendano sempre la partita questi due, che però poi in una stagione non è che possano azzeccare tutte le partite. Però comunque sono un punto su cui probabilmente ricostruire, ci sarà da ricostruire. Ma questo certamente, però bisogna vedere gli obiettivi che ti poni. Se ti poni l'obiettivo di vincere la Champions, credo che non bastino loro due assolutamente. L'obiettivo scudetto è già sfuggito per quest'anno? Direi di sì, direi che è sfuggito in due momenti: all'inizio del campionato, quando il Milan ha fatto 5 punti nelle prime 5 partite, e poi nella fase dopo la contraccolpo dell'eliminazione della Champions con le partite con Fiorentina e Bologna. Questi sono stati i due momenti sicuramente cruciali. Credo che adesso il Milan per primo sappia molto difficile vincere questo scudetto, perché la Juve dovrebbe perdere una partita e non basterebbe, perché se vincesse altre due vincerebbe lo scudetto. Siccome il calendario della Juve non è insormontabile, credo che il Milan sappia che lo scudetto probabilmente è andato per colpa sua, non solo per detto della Juve. No, Massimo, una sola cosa, puoi chiedere all'amico Enrico Currò chi sarà l'allenatore del Milan l'anno prossimo? Chi sarà l'Allegri della situazione del prossimo anno al Milan? Ovvero ancora Allegri o chi? Questo lo sa solo Berlusconi, credo. Non credo che lo sappia qualcun altro. Credo che Allegri sia stato messo in una condizione da Berlusconi un po' difficile, nel senso che queste scoperte critiche, queste candidature altrettanto scoperte di attori come Guardiola l'abbiano un po' delegittimato, e credo che la cosa non gli faccia assolutamente piacere e lo metta in difficoltà. Quindi i casi sono due: o rimane Allegri, però rimane un Allegri che sa di non avere particolarmente amato dal padrone della società, oppure Allegri va via e allora vediamo chi viene al posto suo, che veramente in quel caso sarebbe un'incognita, perché Guardiola onestamente tutto può essere, ma insomma è un po' difficile, che mi sembra un po' difficile che venga ripartendo da una situazione come quella che dicevamo prima. Può essere una sfida, certo, questo sì, però e per il resto, se rimane Allegri, sarà un Allegri appunto un po' delegittimato. Potenzialmente c'è molto da inventare in casa Milan, definitivamente. Secondo me sì, veramente, quest'anno sì. Carlo. Grazie Massimo Sollazzini con Enrico Currò. No, perché a questo punto io credo che la domanda sia questa. Io credo che Allegri, perdendo questo scudetto, già non è particolarmente nelle grazie di Silvio Berlusconi, tra il detto e il non detto, più non detto che detto, ma si intuisce qual è la sostanza, tanto che ieri questa domanda gli è stata fatta in conferenza stampa. Vola il nome di Fabio Capello, non si sa se per la panchina o più probabilmente per una scrivania. Comunque la mia sensazione è che l'anno prossimo il Milan non ripartirà da Massimiliano Allegri, non solo la tua, Pietro. Diciamo che le sensazioni, per quello che l'ambiente milanista lascia trapelare, sono queste. Poi può succedere di tutto, però credo che onestamente Allegri non so quante colpe abbia, nella misura in cui ha avuto una serie di infortuni spaventosa, sì. In particolare concentrata nel reparto offensivo, ma in generale ha pagato una squadra dalla condizione atletica e fisica carente per tutta la stagione. Ha pagato, secondo me, in si maniera... Si può dire anche che questo è normale quando alleni una squadra molto anziana. Certo, assolutamente, però ha pagato, secondo me, in maniera devastante anche il mancato arrivo di Carlos Tevez a gennaio, con la forzata permanenza di Pato, che peraltro si è anche fatto male, ma comunque era un giocatore ampiamente sfiduciato anche dall'allenatore, probabilmente, e quindi con un Tevez in più il Milan avrebbe vinto questo campionato, secondo me, con tranquillità. Però sì, è stata una scelta che il Milan, e non Allegri, che Berlusconi credo in particolare si sia assunto, e adesso ne paga le conseguenze Allegri. Però sì, stagione disgraziata anche per Boateng, che comunque continua a considerare un giocatore fondamentale per il Milan di Allegri. Certamente c'è questa diciamo attenuante dei tanti infortuni, però ripeto è abbastanza fisiologico quando alleni giocatori molto in là con gli anni, anche e soprattutto in un centrocampo e in un reparto difensivo che tolti alcuni. Boateng era l'unico giocatore che assicurava una dimensione sia di atletismo che di qualità al centrocampo del Milan, cosa che in maniera abbastanza evidente Clarence Seedorf in questa stagione non è più riuscito a fare, anche per motivi anagrafici. Quindi quando non c'è stato Boateng per il Milan sono stati problemi grossi. Allora, ascoltatori, 800 24 00 24, ma anche quelli che scrivono 349 238 6666, Paolo da Prato che scrive: non capisco tutta questa facile ironia su Stramaccioni, sta facendo molto bene e i risultati da queste parti sono tutto. Sul molto bene possiamo dire che i numeri 14 punti in 6 partite, ha fatto meglio di Conte in queste 6 partite, mi sembra un dato su cui sorridere e basta. Non sono così convinto che possa essere nemmeno lui il futuro dell'Inter in panchina, al di là delle parole di Moratti. Comunque sarebbe una grandissima scommessa, sarebbe una grandissima scommessa, forse una scommessa troppo grande per un ambiente come quello interista. Oppure, secondo me la Juve non ha ancora vinto niente, vedremo il prossimo turno con un Milan che ha trovato un Cassano gasatissimo, basta un passo falso bianco-nero, no, ne servono almeno due, uno non basta. Caro ascoltatore che non si firma, Luca D'Ariccione: se nel periodo di flessione della Juve al Milan fosse stato concesso ciò che gli spettava, avreste esultato meno luridi antimilanisti. Grazie a Luca D'Ariccione. Se alla Juventus fosse stato, che dice un po' quello che, al di là dei luridi antimilanisti, quello che dice Allegri, tornando ogni volta sul gol di Montari, che sì c'era, è evidente. Ma quello, Carlo, la Juventus, il Milan lo ha perso dopo, e questo sì, mi sembra evidente. Ma poi il problema sul gol di Muntari, che evidentemente è un torto subito dal Milan, ma questo non dobbiamo neanche dirlo, cioè è normale, è ovvio che sia così. Però quello è un problema del calcio, cioè finché il calcio si ostina a non voler cambiare, possiamo farci ben poco. Beh, sai, il calcio si ostina a non voler cambiare, e chi segue il calcio pure, perché certo. Però voglio dire, sappiamo benissimo che sono anni ormai, non so, più di 10 senz'altro, che continuiamo a parlare di tecnologia, di trovare delle soluzioni per questo tipo specifico di soluzioni, di situazioni, non si vogliono trovare, ora pare di sì, però siamo ancora alla fase degli esperimenti, però finché il calcio come mondo si ostina a dire che filosoficamente bisogna saper accettare l'errore dell'arbitro senza protestare e stare buoni, perché nella vita sbaglia il calciatore sbaglia l'arbitro, sì, grazie, però poi allora state zitti tutti e va bene così. No, naturale, dalle altre parti stanno zitti, prendono e portano a casa, da noi invece ci sono complotti e uomini neri ovunque. Matteo da Modena, poi Mario, provincia di Roma, e Rossano, provincia di Ancona. Matteo, buonasera. Sì, buonasera. Io secondo me lo trovo molto di cattivo gusto parlare della terza stella sulla maglia della Juve. Sì, quello anch'io. Perché mi sembra proprio il solito atteggiamento della dirigenza della Juve, che non riesce ancora ad ammettere che hanno avuto un passato forse non troppo limpido. Ecco. Ma infatti io sono, le dico la verità, magari una verità che risulterà impopolare, gli juventini mi mangeranno, però sono piuttosto contento che la Juve si avvia a vincere questo scudetto, così poi magari riescono a mettersi anche un po' il cuore in pace, anche se questo discorso della terza stella non... Forse mi toglie qualche speranza. Trovo anch'io di cattivo gusto questo discorso per molte ragioni. La Juventus sta meritando ampiamente lo scudetto, che con tutti i meriti del mondo le sta arrivando, però ritirar fuori sta storia è come dice lei. No, grazie de che. C'è da ringraziare, semplicemente sono due opinioni che valgono allo stesso modo, cui aggiungiamo quella di Pietro Scibetta. Sì, sono d'accordo anch'io, anche per un motivo molto semplice. Stiamo tutti nello stesso mondo, siamo tutti nella stessa società. Possiamo stabilire che una sentenza ci piace o meno, che un risultato di un processo sportivo ci piace o meno, però se passa l'idea che siccome quel giudizio non mi piace, allora faccio come mi pare, credo che si sconfini in una cosa abbastanza pericolosa come mentalità. È questo che non mi piace del discorso della terza stella, al di là del cattivo gusto. Lo sconfinamento è accaduto da mo'. Esatto. Abbiamo già altro che sconfinato. Esatto. Siamo sempre ottimisti quando diciamo magari sconfiniamo. Esatto. Magari sconfiniamo, esatto. Siamo alla deriva, magari sconfiniamo. C'è chi ci mette la mostarda scrivendo primo gol del Milan, neanche il miglior Masiello, e chi ricorda, ed è Adolfo da Campobasso, che nel 66 è stato assegnato un mondiale con un un gol inesistente, nessuno ha revocato il titolo all'Inghilterra. Mario, provincia di Roma, buonasera. Ciao, per quello che riguarda lo scudetto, onore alla Juve. Cioè? Se lo scudetto lo perde, lo sta perdendo il Milan. Sì. Cioè, la Juve ha dimostrato una continuità impressionante. Ci credono, sono in una forma atletica eccezionale. E se lo per quello che riguarda invece il terzo posto, vedo favoritissimo il Napoli. Ah. Quindi sei d'accordo con me? Anche calendario alla mano, pure se ieri sera ha gettato una grande occasione. La partita ieri in Napoli, ho avuto due volte la possibilità di chiuderla, però poi ti devi aspettare che se non butti la palla dentro, che alla prima occasione loro diventano importantissimi, cosa che è successo, perché là è stato un errore di posizione di Fernandez, che invece di andare a chiudere ha aspettato che Maggio entrasse scivolata, e Zuniga che stava dormendo perché è stato anticipato il netto dal giocatore della Roma. Quindi non chiudi la partita la pareggi, ma come partite da giocare, ancora da disputare, vedo più favorito il Napoli, insomma. Io sono d'accordo, ma anche come condizione complessiva, al di là del filotto di buoni risultati dell'Inter, e aggiungerei pure il fatto che il Napoli per quanto riguarda il quadro dei confronti diretti è in vantaggio sull'Udinese e anche sull'Inter, perché l'ha battuta due volte, è in svantaggio con la Lazio e con la Roma, che però, ripeto, mi pare le due romane sono quelle messe peggio, la Roma per un discorso di classifica, la Lazio per un discorso di forma invece, almeno per quello che lascia. Però la Lazio vedi che si continua a dire adesso molla, non c'ha close, c'ha sempre poi un colpetto, rimane ha lì. Sempre il colpo di orgoglio, resta lì, bravissima la Lazio. Infatti sono molto curioso di vedere questa Udinese-Lazio, perché comunque sarà una partita chiave. L'Udinese mi sembra una di quelle un po' sgonfie, sì. Tra queste forse la più è probabilmente quella che ha anche meno anche armi a disposizione tra tutte, però poi ha perso un giocatore secondo me straordinario come Maurizio Isla, che io fossi una grande squadra prenderei subito, consigli per gli acquisti però in questo caso che non valgono nulla. Rossano, provincia di Ancona, buonasera direttore. Allora, direttore no, sono Carlo Gente, basta, dica. Buonasera, allora posso dire tu Carlo? Allora, no, devi darmi del tu. Io vorrei fare una domanda su il giocatore Elia, impiegato oggi da Conte, in tutti i 15 minuti, come diciamo seconda punta a posto di Vucinic. Io personalmente ritengo che sia un giocatore tecnicamente valido, tatticamente un po' indisciplinato. Secondo lei, il ragazzo può rimanere alla Juventus la prossima stagione? Neanche dipinto, io credo, neanche dipinto, a parte che non siamo in grado di giudicarlo perché non l'abbiamo visto mai. Oddio, c'è il discorso può rimanere alla Juventus, potrebbe essere legato a quanto l'hanno pagato, perché cedessero Elia sul mercato vale un pacchetto di chewing gum, oggi l'hanno pagato un sacco di soldi, quindi potrebbe rimanere per vedere se si riesce a valorizzare in qualche maniera. Anche perché comunque la Juventus l'anno prossimo gioca la Champions League, quindi ha un impegno importante in più. Elia comunque è un giocatore ancora giovane, che ha la possibilità, o la Juve o da un'altra parte, di far vedere quanto è bravo. E credo abbia pagato un fatto tattico, nel senso che è arrivato per giocare con una Juve in un certo modo, poi la Juve ha cambiato idea, adeguandosi soprattutto a un giocatore come Vidal, che poi si è rivelato devastante, dominante a tratti centrocampo. Su Vidal poi facciamo un discorsetto. Esatto, assolutamente. Allegri, però, sentiamo Allegri con Sky. Allegri, un ottimo rapporto col presidente, che ci ho parlato anche stamani mattina. Con Galliani ci vediamo e ci vivo quotidianamente. Al Milan sto bene. Credo che nei due anni di gestione abbiamo vinto un campionato, abbiamo vinto una Supercoppa. Siamo ancora in lotta per il secondo scudetto. Siamo stati eliminati dal Barcellona con un po' di rammarico di non aver potuto giocare il secondo tempo in un altro modo, quindi credo che da questo punto di vista non ci siano assolutamente problemi. Poi oggi è arrivato a 100 panchine con il Milan, a quante vuole arrivare? Con altri due anni di contratto fate conto voi, però oggi era importante vincere, soprattutto per continuare a stare attaccati alla Juventus e sperare che loro mollino qualcosa, anche se ormai mancano tre partite e risulta molto difficile, perché stanno facendo grandissime cose. Noi sicuramente fino a questo momento abbiamo fatto molto bene, e se arriveremo in fondo come dobbiamo arrivare non abbiamo da rimproverarci niente. E vedere un Cassano così, giocare con Ibrahimovic, tornare titolare e in gol e fare grandi giocate, aumenta un po' anche i rimpianti per non aver avuto lui e tanti altri giocatori come lui dall'inizio della stagione? Purtroppo lui, Gattuso, sono stati infortuni che nessuno si poteva immaginare. Flaminia ha avuto un crociato, Iapis una caviglia, abbiamo avuto tanti infortuni di questo genere. Purtroppo quando ti mancano i giocatori di classe, ti mancano i campioni, alla lunga puoi pagare. E noi abbiamo pagato uno sforzo importante che abbiamo fatto dalla sesta partita fino alla partita con la Fiorentina. In quelle due partite, perché siamo arrivati con i giocatori contati e non ho avuto la possibilità di far rifiatare qualcuno. Senta, tre punti da recuperare in tre partite, adesso cosa ci vuole? Un miracolo oppure le sue speranze sono ancora alte? Ci vuole solo che la Juventus pareggi due partite e noi vinciamo tre. Ilaria? Sì. Sembra facile dirlo un po' meno a farlo. La cronaca dice invece anche che... perché comunque è sbagliata la domanda. Non sono tre punti, devono essere almeno quattro. Perché esatto. A parità vince la Juve. Vince la Juve. Comunque la cronaca dice che Allegri è un po' il personaggio in questa stagione del Milan. Con grande nervosismo, ti ricordi, strisciante, secondo me trasmesso anche alla squadra quando c'era il discorso del contratto in ballo. Sì. Ma come, ha vinto lo scudetto, non gli prolunghi il contratto? Ma come, si dice anche fosse lui stesso molto, molto nervoso per questo. Poi contratto inchiostrato, come ti ricorderai, a giochi in corso. E poi questo, insomma, ti ricordi che con Ancelotti resti o vai, resti o vai, resti o vai? È cominciato il tormentone, la prima domanda, ma i rapporti con Berlusconi? No, lo sento, Gagliani, ci esco a cena. Poi dice sempre che lo sente, non dice come sono i rapporti. Esatto. Però voglio sperare che lo senta, insomma, il suo presidente, è normale. Stefano, provincia di Alessandria. Salve, buongiorno. Salve. Sposterò un attimo l'argomento, scusi se interrompo questi discorsi con una retorica da un minuto. Purtroppo io il calcio non lo seguo più perché sono disgustato dagli ultimi 10 anni delle ultime 3 giornate di campionato, che sono sempre quelle dove ci sono dei risultati un po' strani e dove in questi mesi e in questi anni si sta indagando in varie procure d'Italia. Ed effettivamente poi è uscito quello che sta uscendo. Sì. Insomma, ma lei non lo segue, ma oggi quindi non sa nulla, cioè ha visto qualcosa, sa dirmi se a suo parere c'è qualche risultato che è così? Ma no, guardi, non voglio no, non, ma così fa oggi per non parlare. No, io posso dire una cosa, i fatti accaduti a Genova l'altra settimana, io per la carità i tifosi hanno torto. Assolutamente, la squadra assolutamente non doveva consegnare le maglie, questo gesto della maglietta assolutamente sbagliato, però della gente che sta una settimana a casa magari in disoccupazione o in mobilità, gente che arriva allo stadio carica per vedere una bella prestazione in casa del Genoa, io tra l'altro sono di Cremo Fratto, quindi non c'entra niente con Genova, poi dico arrivano lì e si beccano 4 pappine. Cioè, io credo che un po' si arrabbiano, poi sì, esagerano e hanno... No, hanno Stefano, bisogna fare dei distinguo, secondo me non c'entra nulla il fatto che siano in mobilità, in disoccupazione o che si arrabbino, cioè modo e modo, cioè non si arrabbiano, se ne vanno, si arrabbiano, fischiano, si arrabbiano, tirano fuori il fazzoletto bianco, ci sono mille modi di manifestare legittimi il proprio dissenso, però dire io faccio sacrifici per venire a vedervi, voi giocate in questo modo, io voglio la vostra maglia, io mi arrampico sulle tribune, io faccio questi gesti, no, lì la polizia entra, li spazza via, li chiude in una gabbia e poi ne riparliamo tra qualche anno. Su questo bisogna fare dei distinguo ben precisi su questi punti, perché non c'è alcun tipo di giustificazione, così come non c'è alcun tipo di giustificazione per quello che abbiamo visto ieri sera a Roma, e purtroppo sono cose, a testimonianza del fatto che non ci sia alcun tipo di giustificazione, che vediamo solo dalle nostre parti. Guarda un po'. Pietro Scibetta, stiamo qui, adesso c'è il giornale radio, ma poi torniamo perché abbiamo un'altra ora da passare insieme, a cominciare da Luca da Milano. Luca, sentiamo giornale radio insieme, poi parliamo. Dunque, in questa domenica qui con me Pietro Scibetta, voce di Eurosport, sempre Giorgio De Luca in redazione, Fabio Cantadori in regia, che non si rassegna ad un Milan che dovrà scucire lo scudetto. ti rassegni. È rassegnato anche lui. 800 24 00 24, numero verde, seconda ora insieme. Cioè, siamo insieme già da un'ora e mezza, ma insieme fino alle 19, soprattutto per sentire voi. 800 24 00 24. Luca, buonasera. Buonasera e grazie di tutto. No, grazie a lei. Le è piaciuto il GR di Enrico Pagliarini che abbiamo ascoltato, sì, insieme? L'ho tenuto in attesa. Ma la domenica preferisco sentire lo sport, che le notizie, specialmente questo. Dica Luca. Allora, io sono interista, ma preferivo non parlare dell'Inter perché è meglio non pensare a certe partite che credo ci costeranno il terzo posto. Volevo parlare dell'altra squadra di Milano, sì, a cui mi affidavo per togliere questa terza squadra, terza stella alla Juve, ma anche lì non ho molte speranze. Si diceva dei non errori di Allegri, della sfortuna. Io credo che Allegri di errori ne abbia fatti. E io ho avuto modo di vedere le partite del Milan e ho visto... Cioè, ho visto faceva l'infiltrato... Sì, beh, ero un tifoso nascosto, diciamo, tipo, perché non si può dire, sì, il tifo del Milan, però meglio questa che l'altra. Sì. E allora io ho visto sempre Muntari a centrocampo e io sono abituato a vedere Muntari, ho visto lo stesso Muntari dell'Inter che io, insomma, non lo vedo, non è un centrocampista da Milan e da Inter. E se poi lo si vuole far diventare il nuovo Seedorf, il nuovo Pirlo, va bene, ma se, cioè, solo pensare a quel gol di cui tanto si parla, si parla di dentro, fuori, ma nessuno dice che quel gol chiunque l'avrebbe fatto. Non ci sarebbero stati dubbi. Sì, anche Muntari l'ha fatto volendo. Sì, sì. Volendo l'ha fatto anche lui. Quella palla doveva entrare. Sì. Basta, io ma credo, guardi, che questo sia un grande errore di Allegri. Guardi, Allegri ha preso, il Milan ha preso Muntari in piena emergenza, non senza chiedergli di fare il nuovo Pirlo, il nuovo quello che vuole, perché sarebbe una follia. È un giocatore di corsa, di vigore, lei lo conosce bene, non gli si devono chiedere compiti di fino, non sarà mai Seedorf, e questo è altrettanto evidente. È uno che ha dignitosamente portato dell'acqua, nemmeno credo malaccio. Che, appunto, nessuno gliel'abbia mai chiesto di essere una superstar. Ha portato un po' di energia a centrocampo, che era quello che mancava, però facendo le cose che sa fare. Un giocatore tecnicamente non eccezionale, ha portato quello che può in un Milan che era oggettivamente in grossa difficoltà. Adesso, che sia un errore di Allegri anche la mancata superpotenza del tiro di Muntari in quella circostanza, non mi sentirei di dirlo. Poi è chiaro che non è che non abbia sbagliato nulla Allegri, però non possiamo neanche non riconoscere il fatto che non ha avuto una squadra nel pieno delle sue possibilità. Certo, non ha avuto una squadra all'altezza, e soprattutto ricordiamo bene la quantità di assenze, soprattutto in certi reparti, soprattutto a centrocampo. Centrocampo, attacco, è successo di tutto praticamente. Questo è evidente. Fabio da Pisa. Grazie Luca, grazie. Fabio da Pisa. Buonasera. Buonasera, dica. Senti, io vi stavo ascoltando, io sono un tifoso della Juventus, no? Ascoltavo la trasmissione e ho sentito parlare della terza stella di qui, là, ma perché non la fanno finita. Senti, siccome sono abbastanza anziano, diciamo, non è che sia un bimbetto. Però io ho letto tutte le telefonate che ha fatto la Juventus, che ha fatto Moggi, che ha fatto l'Inter, che ha fatto il Milan, e non vedo nessuna differenza io fra quelle di Moggi e quelle di Vellati, dirigenti di altri, forse ancora più gravi sono. E a me mi importa una semplice, che dia, ma la giustizia sportiva, la giustizia sportiva, la nostra federazione, per dare lo scudetto all'Inter erano tutti subito predisposti. Ora per rilevarglielo invece non possono intervenire. Quindi è inutile che voi parlate sempre, ma perché la fanno finita. Noi si fa finita quando gli scudetti ce li danno, perché noi si sono vinti in campo. Perché noi si era non più forti, 7.000 volte più forti di quell'altri. Sì. No, intanto ringrazio per la finezza sul na semplice, è stato un gesto esaltante. No, ma qui non si tratta di questo, secondo me. Ribadisco, le sentenze sportive, amministrative, penali possono piacere o non piacere, si possono condividere o meno. Gran parte dei tifosi juventini non condividono quello che è successo ed è legittimo. Detto questo, è ci sono state delle decisioni. Se poi si vuol ragionare in un contesto di rispetto delle regole, le rispettiamo. Se siccome una decisione non mi piace, allora faccio come mi pare. Poi a me non piace. No, ma questo è il punto. Poi non è il punto. Il punto non è stabilire noi da qui se aveva ragione la Juve, se ha ragione l'Inter. Del simpatico ascoltatore di Pisa dire le ho lette tutte e io non sono d'accordo perché non la vedo così. Però ci sono dei giudici, c'è cioè chi è preposto a leggere. È semplicemente quello. Poi si può essere d'accordo o meno. Cioè, non sto dicendo che sia verità assoluta, però è così, cioè, sono stati emessi dei giudizi, quelli sono, a quelli ci dobbiamo attenere. Io non credo che Contador a oggi vada in giro a festeggiare il Giro d'Italia dell'anno scorso che gli è stato tolto, per fare un esempio, come non credo che gli atleti delle Olimpiadi a cui sono state tolte le medaglie rivendichino oggi quelle medaglie, magari non condividendo quelle decisioni, però è così. Mario, Firenze. Sì, buonasera dottore. Buonasera, dica. No, volevo sapere da lei che io scopri nel calcio capisco poco, però sono tifoso della Fiorentina. Sì. Tutto il campionato, questo vorrei spiegare lei, perché oggi l'ho guardata un po' prima di partire, non c'è mai un uomo che vada a prendere un passaggio, ma come fa una squadra come la Fiorentina a fare un gioco, farsi da yo-yo là che lo definiscano un grande giocatore, e sarà anche un grande giocatore, ma lui stesso se non collabora con gli altri, ma come fanno a tirare in porto o a segnare? Guardi, la Fiorentina ha un mare di problemi, caro Mario. La Fiorentina non ha solo problemi di movimento, non ha solo problemi di gioco. La Fiorentina è una squadra sbagliata. È una squadra sbagliata che si è probabilmente avuto molta fiducia in certi giocatori che la fiducia non l'hanno ripagata. E in questa stagione il massimo che si può chiedere, naturalmente, è di portare a casa la buccia. E poi dovrà ripartire non so da dove, perché si tratta di vedere della Valle con questa creatura che cosa vogliono fare, insomma. Credo che squadra sbagliata sia la definizione più giusta che potevi dare, perché obiettivamente è quello che emerge poi vedendola in campo, una squadra sgangherata con evidenti problemi tecnici ancora prima che tattici, insomma, con giocatori che non sono molto omogenei come livello, ecco. Certo. Quindi è chiaro che andava incontro a tante difficoltà, poi c'è il cambio di allenatore, insomma, tantissimi problemi, Montolivo col contratto si è trascinato un sacco di storie, ma non a caso Degli Orossi, che è uno che ne ha viste tante, che resta comunque uno dei miei allenatori preferiti, ha detto questa è la missione più difficile della mia carriera. Di missioni difficili ne ha avute tante, insomma, nemmeno lui è riuscito a dare un minimo di credibilità a questa Fiorentina, che credo taglierà il traguardo, così come il Genoa vediamo. Però Diciamo che la Fiorentina ha 6 punti su Lecce, che va a giocare in casa della Juve, insomma, dovrebbe succedere veramente un cataclisma perché non si salvi. Al Novara in casa, esatto. Nel turno infrasettimanale, e penso possa essere la notte decisiva potrebbe essere la notte delle streghe, degli stregoni, esatto. O quella in cui si dice vabbè, questa è fatta, esatto. Adesso passiamo alla prossima. Sempre come Pietro Scimetta, 800 24 00 24, rimane il numero verde per intervenire. Si faceva il discorso, vorrei fare con te poi il discorso Vidal, che è un giocatore che si sta rivelando determinante in questa marcia incredibile della Juventus. All'inizio io ho avuto la netta impressione che non fosse un giocatore gradito a Conte, prima ne parlavamo e ricordo di un Vidal schierato inopinatamente alla destra del trofeo Berlusconi con il Milan, palesemente fuori ruolo, e la mia prima sensazione, ho detto, questo è un modo per mettere allo scoperto, per mettere al vento un giocatore poco gradito, o l'ennesimo giocatore che arriva alla Juve come è successo nelle ultime stagioni, carico di promesse, poi che ha raccolto solamente tante delusioni. Dicevamo anche che la Juve nelle stagioni scorse ha speso una montagna di soldi per costruire squadre che poi non si sono rivelate all'altezza. In quel caso poi Conte non so se fosse fatto apposta, nel senso che non lo voleva lui, allora lo metteva in quel ruolo lì, però poi ha avuto l'intelligenza di capire che era un giocatore che poteva dargli tanto, e lo ha messo nelle condizioni giuste, insomma. Sì, poi Conte ha avuto fin dalla prima giornata, comunque me la ricordo bene, l'accortezza, dopo aver sbandierato un improbabile 4-2-4 per tutta l'estate. Io ricordo la prima giornata con una squadra estremamente ben disegnata in campo, e tale è rimasta per tutta la stagione. Poi ha trovato vari punti di forza, inutile dire Pirlo, ma i gol, gli inserimenti, i gol di Marchisio, l'importanza di Vidal, i gol di Pepe, che ha giocato un girone d'andata straordinario, e pur senza avere la quelli la di Matri che poi è scomparso, dalle rotazioni, esatto. Pur senza avere la superstar che adesso gli juventini chiedono a gran voce per affrontare comunque la Champions League. A proposito, tu chi vedresti? Quale superstar vedresti nel momento? È troppo facile dire un attaccante, dovrebbe essere un attaccante, sì, fai un nome. È un nome difficilissimo, perché poi dipende da mille fattori, però chiaramente un centravanti, perché poi è il ruolo in cui hanno cercato internamente tante soluzioni, prima con Matri, adesso con Borriello, che ha segnato in due partite consecutive dopo un periodo lunghissimo di astinenza. Vucinic ha provato a fare il centravanti, poi è tornato a fare più l'esterno d'attacco. È chiaro che è lì il problema. Il problema della Juve sono stati quei 14 pareggi, se non vado errato, in cui non sono riusciti a scardinare delle squadre chiuse, perché non avevano un riferimento, un giocatore in grado di fare un gol inventandoselo. Io molte volte ho detto la differenza è semplicemente Ibrahimovic tra la Juve. Ecco, però la differenza tra Milan e Juve è questa, secondo me, che la Juve ha avuto una tenacia mostruosa anche nelle partite in cui non è riuscita a vincere, mentre il Milan, con la consapevolezza di avere davanti Ibrahimovic soprattutto, giocava una partita con dei ritmi un po' così, un po' con grande nonchalance, pensando che prima o poi l'avrebbe portata a casa. Secondo me questa è la differenza di atteggiamento principale tra Juve e Milan, e per questo motivo alla fine la Juve vincerà il campionato. Ci alziamo in piedi insieme davanti al Signore degli Anelli, Iuri Chechi. Ciao Iuri, grazie. Ciao, grazie a te per l'invito. Come stai? Molto bene, grazie, molto bene. Senti, il personaggio della settimana è stato fatalmente Guardiola. Che effetto ti ha fatto questa storia, da molti vista come favola, da molti vista come esempio di come dovrebbe essere il calcio e lo sport? Una bella storia, innanzitutto. Una bella storia che si è conclusa anche in maniera comunque vincente. Io credo che sia... Io seguo il calcio in maniera così passionale. Devo dire che il Barcellona mi ha divertito sempre molto, e in questo successo di questa squadra e in questo modo di giocare credo che Guardiola sia stato sicuramente uno dei fautori, quindi mi fa piacere, spero che possa riproporsi, chissà dove andrà, in altre situazioni. Vi auguro non nel calcio italiano. Guarda, l'hai detto te, io mentre io purtroppo per tanti aspetti lo confermo, io non ho diciamo nulla di particolare come per il calcio italiano, ma credo davvero che purtroppo siamo ancora in un momento molto delicato, complesso, dove il proprio chi più di tutti ci rimette è lo stesso calcio, perché prima o poi mi auguro davvero che questo calcio possa ritrovare una sua dimensione, una sua anche, non voglio fare moralista, ma anche una sua etica, sì. Credo che ci sia anche bisogno, no? E quindi me lo auguro fortemente, soprattutto proprio per il calcio, e sì, poi chiaramente tutto quello che c'è intorno. Ma ti dico la verità, anche per noi che chiediamo e prendiamo grandi eventi internazionali prendendo delle porte in faccia, diventa difficile poi difendersi di fronte ad immagini come quelle di Genova di domenica scorsa, no? Hai voglia a dire mi piacerebbe organizzare le Olimpiadi, mi piacerebbe organizzare questo o quell'altro. Guarda, parli con uno che dello sport ha fatto e fa la propria vita, e anche dell'olimpismo ha fatto quasi una ragione di vita, però hai detto bene te, difficilmente possiamo proporci a livello internazionale quando si vedono cose come quelle, e purtroppo sono cose reiterate, perché quella del Genoa è una cosa pazzesca, però chi non ha la memoria corta, cioè ogni tanto viene fuori una cosa che purtroppo ci fa fare una pessima figura nel mondo, e questo io davvero mi auguro fortemente che possa cessare molto molto rapidamente, insomma, perché come ho detto prima, credo io dello sport, insomma, ne faccio e ne ho fatto una ragione di vita. È stata smaltita in un certo senso la delusione dello sport italiano per la mancata Olimpiade, ora che ci avviciniamo comunque all'Olimpiade di Londra, e magari proviamo a parlare di sport in maniera un po' più serena. Beh, è stata una bella mazzata, diciamo, per alcune cose. Io ero uno di quelli anche invece che ha provato fino alla fine a portarlo avanti, condividendo e comprendendo nel modo più assoluto tutte le ragioni, però proprio perché avevo anche il piacere, la voglia di vedere, di provare ad avere un'Italia sportiva migliore negli anni qui a venire, volevo essere della parte, no, dell'ottimista, anche se, ripeto, comprendo benissimo, è stata forse la scelta più logica quella di non affrontare questa sfida. Però sai, lo affrontano la Spagna, altre nazioni che hanno delle difficoltà, proprio perché c'è bisogno anche, no, di credere, di sapere che c'è la possibilità di organizzare grandi eventi. Però è andata così, è smaltita, assolutamente sì, è smaltita, e ci affrontiamo adesso a vivere le Olimpiadi di Londra, dove sono certo che l'Italia in quel caso potrà essere comunque protagonista. Senti, per chiudere, Iuri, tu credi che insegnerà qualcosa l'Olimpiade di Londra al mondo dello sport, cioè che sarà un'Olimpiade in qualche modo diversa? Guarda, il progetto di Roma 2020 era proprio quello di rincominciare con un'Olimpiade diversa, realmente un'Olimpiade molto più fattibile, non voglio dire sobria, perché bravo, sostenibile, sobria non mi piace, però sostenibile, tornare un po' anche ad avere poi una legacy importante con la città che ospita, eccetera. Quindi tanti aspetti. Io credo che Londra questa cosa purtroppo ancora non riuscirà a farla, anche se faranno una meravigliosa Olimpiadi e so che stanno organizzando bene. Forse da Londra no, ma prima o poi sicuramente dovremmo ritornare a questo. Sarebbe stato bello farlo con Londra, così non sarà, ma mi auguro che prima o poi o Rio o chi sarà possa davvero farla, perché c'è bisogno di riavere un'Olimpiadi, come ha detto giustamente te, sostenibile. Grazie Iuri, bocca al lupo, buon lavoro. Sempre con tanto piacere. Grazie, davvero. Anche noi. Ciao, Iuri. Anche noi ti seguiamo con tanto affetto come sempre. Torniamo a parlare con gli ascoltatori, 800 24 00 24. Alessandro da Sondrio. Sì, buonasera. Buonasera. Alessandro da Sondrio, in viaggio da Milano verso Sondrio dopo la partita dell'Inter. Come l'ha vista? Diciamo che abbiamo avuto buone occasioni, un po' sotto porta non siamo stati precisi, quindi poi ci siamo complicati la vita. Stramaccione ne ha contate 14 nel primo tempo. In effetti sì, diciamo che Pazzini è un po' arrugginito in questo periodo. Un po' arrugginito, lei è troppo buono, troppo tifoso. No, io volevo parlare un po' in risposta anche ai tifosi juventini, che sinceramente, allora io sono interista con i miei amici di viaggio, è da 20 anni che siamo abbonati all'Inter, abbiamo subito per anni e anni, a volte giustamente sul campo arrivando quinti, settimi, terzi, quarti, a volte siamo arrivati secondi e probabilmente meritavamo la vittoria come nel 98 e nel 2002, e volevo arrivare proprio a questo punto, cioè gli albi d'oro, se li decide la federazione e la Lega, valgono quelli, quindi l'Inter ha 18 scudetti, la Juve 28, il Milan 18 mi sembra, se invece ognuno fa per sé, diciamo che l'Inter secondo me ne ha 22-23, la Juve 21-22, sì. Perché no, la Roma no, Alessandro, se ci mettiamo a deciderli in proprio gli scudetti della nostra squadra mi sembra complicato. Devo per l'anno prossimo, se la Juve mette la terza, che l'Inter e il Milan si mettessero d'accordo a metterne almeno due, se non tre o quattro, sì. Tanto per rispondere, oppure risponda ad Emiliano che scrive: comunque la stella è un'invenzione di Umberto Agnelli, non un titolo ufficiale, avendolo inventato noi direi che lo mettiamo quando e come ci pare. Noi dell'Inter metteremo anche mai andati in B, se permettete, adesso faremo richiesta alla Lega, ma veramente se vedo la terza stella sulle maglie della Juve io vado allo stadio solo se vedo mai stati in B sulle maglie dell'Inter. Ma chiudo così. Si possono scatenare i maghi del marketing, tra l'altro. Infatti, tanto vabbè. Se vale così, liberi tutti, anarchia totale. Sì, mi sembra che l'anarchia ce ne sia già fin troppo nel nostro pallone, Alessandro. No, ma comunque, insomma, io sono con quelli che dicono, come Arturo Juventino, da tifoso Juventino trovo stucchevole la polemica sulla terza stella. Abbiamo 27 scudetti, speriamo di vincerne una breve, nonostante le vostre gufate, scrive anche l'ascoltatore. La Juve comunque sul campo, in effetti quest'anno mi vuole dirlo, ma sta meritando il campionato. Strameritando. Ecco, strameritando. Devo anche dire che noi abbiamo vinto 5 scudetti consecutivi. Sì, vabbè. c'è sempre stato qualcuno che ci rimproverava che non c'erano gli avversari. Mi piacerebbe un vostro parere per capire se la Juve di quest'anno vale la Roma che è arrivata seconda due volte contro l'Inter tra il 2006 e il 2010. Ma secondo me no, però lascio anche a voi no, il parere. Questi sono paragoni che mi sembrano un po' impropri, un po' anche finanche un po' troppo maliziosi. Certamente l'Inter ha vinto uno scudetto in cui c'era il Milan penalizzato, in cui la Juventus era in Serie B, insomma i competitor non erano, non c'erano, che nel non primo, c'erano tutti, certamente, nel senso che poi era ovvio, non... sì, si era partiti per l'Inter da una situazione di vantaggio oggettivo, quindi poi sì. Fece una stagione pazzesca perdendo credo solo una partita con la Roma peraltro, sì, in casa, quindi legittimando la propria forza, però in questi campionati diciamo successivi al 2006 poi in almeno due casi la Roma è stata vicinissima a vincere, quindi non è vero che non ha avuto un avversario credibile. Ecco, io direi che comunque in questa stagione, se vogliamo ricordare così la griglia di partenza, certamente la Juventus non era in prima fila. In prima no, fila perché c'erano... partiva da due settimi posti consecutivi, esatto, quindi era impossibile dare. C'erano le due milanesi, ci poteva essere eventualmente il Napoli reduce da una grande stagione, ci poteva essere basta. Meglio che ci fermiamo lì. Gaetano Vicenza, buonasera. Buonasera a voi, sono qui che vi ascolto ogni domenica praticamente con mio figlio. Io non dico nulla ovviamente su quello che ha detto l'amico interista in quanto juventino, e semplicemente non ho mai praticato il calcio per motivi di salute. Mi piace vederlo e adoro la Juventus, e quest'anno la mia telefonata ha solo questo senso. Siamo poco orgogliosi, tutto lì. E ho visto una grande squadra giocare anche in condizioni di sostituzioni di giocatori, cioè poco nel senso molto poco il giusto. quello che una persona a cui piace vedere la propria squadra, sì, a giocare bene e vincere. Credo che in Europa siamo stati tra quelli che hanno giocato il miglior calcio, palla a terra, giropalla, fasce e quant'altro. Ho visto partite in cui il Milan ha vinto con palle alte, sì. Ma capita, è il calcio anche quello, l'abbiamo fatto anche noi, sì. E abbiamo vinto anche con un fallo su Giuliano in area, insomma, per ricordare quello che ricordavano gli interisti, insomma fa parte dello sport, ecco. L'importante è continuare a sorridere, insomma, di questa, sì, cosa. Una settimana fa non credo fosse il caso di sorridere, oggi un po' di più. La settimana fa era il caso di incazzarsi duri, come abbiamo fatto. Gaetano, lei la sua telefonata è di grande equilibrio, forse fin troppo equilibrata per un tifoso. Certamente la Juventus ha giocato il miglior calcio che abbiamo visto in Italia, insieme a, per larghi tratti del campionato, secondo me all'Udinese, insieme ad alcune grandi partite del Napoli, soprattutto europee. Questo è il meglio che abbiamo visto dalle parti più di questa stagione, per tutta la stagione. No, poi sì, anche un bello spettacolo, assolutamente. Poi ha battuto tutti, nel senso tutte le rivali le ha battute, quindi ha legittimato ampiamente il suo status di squadra che vincerà il campionato, cioè non c'è un dubbio su questo, assolutamente. Non vedo benissimo il futuro di Allegri, leggo un'agenzia di dichiarazioni rilasciate alla RAI. Allegri sicuro di restare, ho parlato con Berlusconi, è stato alzato un polverone inutilmente, ho un contratto fino al 2014 che intendo rispettare e ho un ottimo rapporto con il presidente, con cui ho parlato anche stamattina di questo. Vedo Allegri sempre più lontano dalla panchina del Milan. 800240024, non so se anche voi. Tu dici quando c'è bisogno di ribadirlo vuol dire che Gennaro da Napoli, buonasera. Sì, buonasera. Io sono un tifoso della Juventus, quest'anno devo dire sono estasiato dalla mia squadra, Conti ha fatto un miracolo. Se ad agosto mi avessero detto che a tre giornate dalla fine giocavamo lo scudetto col Milan, io l'avrei preso per pazzo. Quest'anno è qualcosa di miracoloso quello che ha fatto Conte. La questione sulla quale però io mi chiedo, il prossimo anno, visto che comunque la Juventus quest'anno il gioco che fa è Pirlo dipendente fondamentalmente, mi chiedo se per il prossimo anno riusciremo a fare qualche accorgimento sulla rosa, perché è chiaro che avendo la Champions League e avendo un Pirlo che comunque è di una classe cristallina, però è comunque là con gli anni sì. C'è da intervenire un po' sulla rosa. Sì, ecco. No, c'è da intervenire certamente sulla rosa, però l'essere Pirlo dipendenti è Reipsa, cioè se tu hai Pirlo sei Pirlo dipendente. Questo è un tormentone che ha riguardato a lungo anche il Milan, perché comunque è un giocatore unico che gioca in una maniera unica e che ti condiziona fatalmente, perché è la fonte di ispirazione di tutto quanto. Sì, poi ovviamente ce ne sono tanti di casi, anche non solo nel calcio, in cui si dice questa squadra dipende da questo giocatore, però in molti casi è una fortuna, nel senso, vuol dire che hai un campione assoluto che non hanno gli altri. E Pirlo indubbiamente appartiene a questa categoria. La Juventus rispetto agli anni passati, al di là di Conte, al di là di tutto, ha in mezzo al campo un giocatore che vede le cose 5 secondi prima degli altri. Certo. Quindi è normale che sia poi così. Ha avuto qualche problema fisico anche lui, niente di trascendentale, ha giocato alcune partite stando non benissimo. La Juventus, ma ci vuole questo per fare annate di questo tipo, ha avuto anche pochissimi infortuni, volendo, di infortuni gravi ne ha avuti davvero pochi, come il Napoli l'anno scorso. Cioè, se vuoi arrivare lì, è ovvio che conta questo, questo cioè, conta. Ci mancherebbe altro, questo è parte del, questa è parte del gioco. Quanto a Pirlo, quest'anno l'assenza di impegni europei ha preservato comunque la condizione di Pirlo fin qui. Credo che me sia anche una cosa che Pirlo abbia valutato andando alla Juventus, cioè possibilità di giocare solo il campionato al di là della Coppa Italia, comunque gli ha dato la possibilità di gestirsi anche da un punto di vista fisico durante gli allenamenti, insomma, quindi è normale che questo abbia un peso, così come è normale, come giustamente si diceva, che la Juve debba rinforzarsi poi per la Champions League e tutto, non andando a cercare un altro Pirlo, perché non esiste, però esatto, andando magari a cercare dei giocatori con caratteristiche più o meno simili che possano permettere alla squadra di giocare quel tipo di calcio in maniera leggermente diversa quando Pirlo non c'è. Gianpaolo, Reggio Emilia, buonasera. Buonasera. No, io volevo fare questo intervento. Qualcuno, dopo la partita col Genoa, vinta in extremis all'ultimo minuto, aveva già fatto il funerale del Milan. Ecco, sì. Mi pare che oggi il Milan a Siena, contro il buon Siena di Sannino, abbia dimostrato che il funerale, secondo me, non è ancora ora di farlo al Milan. Lei cosa ne pensa? Io penso che dipenderà però dalla Juventus, non dipende più a questo punto soltanto dal Milan. Oggi la Juventus ha vinto, ma ha vinto a Novara, adesso vedremo. Anche il Siena ha vinto una grande partita. Le giornate calano, ma i punti sono sempre quelli. È giusto, certo. Appunto. E poi le volevo dire un'altra cosa. Prego. Secondo me, se il Milan cede Ibrahimovic in cambio di Guardiola, perché Guardiola arriverebbe solo se Ibrahimovic se ne va, il Milan l'anno prossimo non farà tutti quei gol in campionato che ha fatto quest'anno. No, ma io non, guardi, lei cosa ne pensa? Io penso che Ibrahimovic, dunque, ne ha fatti 26 con questi, sì. Ne ha fatti 26, mi sembra fanta tutto, nel senso, Guardiola starà a casa sua a giocare a golf. Ibrahimovic credo continuerà a giocare nel Milan in linea di massima, vedremo se starà Allegri o quale allenatore arriverà al Milan. Il resto mi sembra, insomma, mi sembrano voli pindarici di fantasia. Sì, non mi sembrano pronti reciprocamente il Milan e Guardiola a incontrarsi in questo momento qua. Poi guarda, sarei molto deluso da due cose: se Guardiola firmasse un contratto con una qualsivoglia squadra ora, dopo aver detto che si ferma un anno giustamente per i motivi che ha spiegato, e sarei molto deluso se, l'ho già detto ieri, se, come si è detto, come si è vociferato, Prandelli decidesse di scendere dal cavallo azzurro dopo gli europei e ributtarsi nelle cose del campionato, magari andando all'Inter, perché un nome accostato a quello dell'Inter, perché credo che se uno, insomma, prende in mano una nazionale, la naturale, la porta termine, fino al mondiale, naturale, esatto, termine sia il mondiale, poi vale tutto. Però sì, sì, naturale termine sia il mondiale, perché sennò è troppo comodo. Quindi non credo a nessuna di queste due cose, per la verità. Antonio, provincia di Chieti, buonasera. Buonasera. Dica. Una breve considerazione e una domanda a voi. Intanto io c'è una corrente di pensiero che vuole giudicare questo campionato necessariamente mediocre, e io non sono d'accordo né come juventino né come sportivo, insomma, di questi tanti. Dopotutto mi sembra che la Juve è proiettata su 86 punti senza aver perso mai, mi sembra che insomma non sia stato un campionato tutt'altro che mediocre. E quindi onore alla Juve e al Milan, che sicuramente ci hanno messo contenuti in questo campionato. E poi a voi invece volevo rivolgere una domanda. Io tifo Juve da sempre, mi sembra di poter dire che quest'anno la Juve ha seccato tutto, innanzitutto il mercato. Considerando che questa squadra ha dimostrato di avere nel gruppo la propria forza, oltre a Pirlo ovviamente, a qualche individualità che sicuramente hanno fatto la differenza, come vedete questa squadra dove debba intervenire in previsione di giocare invece una Champions, dove sì, quindi ci sono completamente diversi. Beh, dunque Antonio, sulla sua questione campionato mediocre, campionato non mediocre, secondo me è un campionato estremamente equilibrato, e secondo me nello sport l'equilibrio è il valore assoluto, quindi questo tanto per cominciare, perché insomma troppe volte nel calcio come nel basket stiamo lì a farci molte elucubrazioni, mi vengono altre parole, ma insomma, hai trovato mentali. Insomma, secondo me lo sport, un campionato è bello quando è equilibrato, quando non conosci il nome del vincitore. Il campionato italiano ha certe caratteristiche che non è fatto per gli esteti, non è fatto per gli spagnoli che mettono l'estetica al di sopra di ogni valore, qualche volta in modo anche bizzarro. È comunque un campionato difficile. Quanto alle prospettive juventine, beh, io se leggo i tre di difesa, Chiellini, Bonucci, Barzagli, se ne tengo uno è Chiellini. Barzagli ha fatto un campionato straordinario, Bonucci non mi sembra da corsa a livello internazionale. Avendo già Pirlo, diciamo che dovendo costituire una colonna di livello internazionale, mancano un grande difensore che sappia giocare la palla, che sappia anche iniziare l'azione e dare tranquillità dietro, e un centravanti che allo stesso modo dia profondità al tutto, cioè faccia dei gol, ma magari anche da solo, cioè magari anche da solo, quel giocatore che ha il colpo vincente, in grado di risolvere, di trasformarti lo 0-0 in 1-0. Esatto. Queste sono le due cose che secondo me andranno a cercare, credo che le stiano già cercando da tempo, insomma. Che settimana ha vissuto il nostro eroe, inchiostrando centinaia e centinaia di pagine della Gazzetta dello Sport. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Siamo andati in overdose, quindi. Siamo dunque, allora, il Real e il Barça fuori dalla Champions League, e questa era già una notiziona, e poi c'è in atto la santificazione di Guardiola, santo subito, o comunque tra non molto. Guardiola santo subito, e poi sì, il cambio con Tito Villanova, assolutamente inatteso, e però per me intelligente, interessante, via, in linea con quello che è il Barcellona, perché tanto secondo me comunque gestire un po' Guardiola è impossibile, sarebbe stato complicato per chiunque, e allora meglio, come ha detto Zubi Zareta, per me quella è la frase chiave di tutta la lunga conferenza stampa dell'altro giorno, quando cerchiamo un giocatore prima guardiamo in casa, e l'abbiamo fatto anche per l'allenatore, per me è correttissimo. Poi se funzionerà o no, questo lo vedremo, ci sono dei punti interrogativi a livello di carisma, di personalità, di esperienza, però è anche vero che Tito era veramente quello che insomma poi faceva girare il Barça a livello strategico, insomma, non è una persona qualsiasi, cioè, io l'ho raccontato, insomma, siamo arrivati a vedere telefonate dalla panchina quando Tito stava male, cioè Guardiola ha preso il cellulare e a un certo punto l'ha chiamato, insomma, questo per dire il grado di confidenza, di fiducia e via dicendo, e poi di conoscenza. Altra frase molto interessante di Zubi Zareta, dice questo è un club particolare, ci sono tanti corridoi, dice bisogna conoscere i corridoi e qui ce ne sono tanti, lui lo sa, è stato lì tanto tempo, 3 volte. No, comunque devo dire che la gestione dell'affair Guardiola, tante volte ne abbiamo parlato, cioè Guardiola, vado, resto, è un elastico che onestamente un po' ha strangolato il Barcellona in questa stagione, no? E anche l'avevamo detto. Sì, ci hanno provato, per me, avendo lui deciso a ottobre, no? è stato gestito anche bene, insomma sono arrivati fino all'ultima settimana molto ancora bene. Vivi molto bene. Non so, mi ricordo quando Lippi disse che se ne andava dall'Inter, non so, un altro po' in Serie B, sì, no, sì. Cioè sono cambi complicati, ancora di più in questo Barcellona che è così Guardiola dipendente, e insomma ci hanno provato a farlo il meglio possibile, però adesso poi vedremo, insomma, ecco, diciamo, finora è chiaro che comunque tutto questo tiramolla, soprattutto nel momento decisivo, è stato deleterio per il Barcellona, certo. Secondo me, senz'altro. Certo. Perché è chiaro che se lui non annuncia che resta prima di partite complicatissime, quando Abidal torna a farsi operare, no, ce n'erano di motivi per annunciare il fatto la sua permanenza. Se non l'annunciava era chiaro che se ne andava, insomma, quindi probabilmente la squadra, non essendo fatta di gente che non ragiona, probabilmente l'avevano capito, anche se Puglioli ieri ci ha raccontato che lui, insomma, fino alla settimana scorsa sperava che restasse, perché la speranza è sempre l'ultima a morire, però insomma sarebbe stata una sorpresa se fosse rimasto. Sì, sì. Peraltro annunciare il nuovo allenatore contestualmente all'addio ufficiale di Guardiola è un'altra fotografia di come funziona questo club, nel senso che spento sul nascere almeno due mesi di tormentone. Ma te l'immagini da noi la questione Guardiola all'Inter? Nome che mi viene in mente, non casuale, ma il primo nome che mi viene in mente. Adesso capirai Berlusconi. No, ma infatti è la prima cosa che, cioè, mettere appunto dal giornale, non ho voluto sapere, dice: ah, ma cosa fa? Dico: no, lui ha detto chiaro che si ferma e c'è già un nuovo allenatore. Quindi, insomma, poi dopo è chiaro che noi l'abbiamo detto tante volte qua, no, ironizzando, no, che Moratti alla piccia, Pep, ogni volta che l'Inter perde, tac, schiaccia il tasto P e parte la chiamata. Berlusconi adesso uguale, forse l'avrà messa la G di Guardiola per differenziarlo. Però questo sicuramente, infatti, per me è il tema: quanto resisterà? Perché poi sappiamo bene com'è, magari adesso è stanco, c'ha ragione, va bene, due mesi, tre mesi di vacanza, come si riprende un po', arriva la telefonata, magari no, riprenderà anche a lavorare, perché poi lontano dal calcio è faticoso, per quanto lui possa dire che no. Guarda che la prossima sfida sarà la più difficile per Guardiola, perché gli chiederanno non di vincere ma di rifare il Barcellona, perché parte talmente dall'alto e lui lo sa perfettamente, essendo un uomo di grande intelligenza, che la prossima sfida sarà quella realmente difficile. Beh, sarebbe geniale se lui, non so, venisse in Italia e vincesse con un calcio all'italiana, allora lì sarebbe l'apoteosi, secondo me, no? Dell'allenatore capace di trasformarsi e di cambiare a seconda del paese dove va, insomma, no? Perché però vedremo. All'italiana è stato eliminato dal Chelsea. Esatto. Per cui io ho tifato per inciso. Ma questo spettacolo, se vogliamo, per un neutrale spettacolo poco decoroso vedersi difendere così, però poi sono in Italia, io l'ho vista tra l'altro con era una tavola molto divertente, perché c'era Massimo Mauro, c'era Santiago Solari e Michael Robinson, ex centravanti di riserva del Liverpool, sì. Quindi c'erano varie scuole calcistiche. È chiaro che più passava il tempo, un po' più l'italianità un po' prevaleva, dice vabbè, però è divertente, anche, è interessante vedere come, no, come si scontrano contro un muro. Però voglio dire, detto questo, non era bello da vedere. Poi dopo solo voi spagnoli siete prigionieri dell'estetica, esatto, caro Filippo, ormai, prigionieri dell'estetica, non è che si vince, lì si deve giocare bene, tutte queste belle cose. Questo poi è vero negli ultimi anni, e secondo me alla fine è il grande merito di Guardiola, di aver vinto tutto giocando anche bene, cosa che raramente succede. Molto raramente. Questa sarà alla fine il suo grande merito, perché voglio dire, vincere, no, 13 su 16, poi adesso sono diventati 13 su 18, comunque tutta questa roba in 4 anni, giocando in quella maniera, voglio dire. Possono ancora diventare 14 per altri titoli, no? Esatto, sì, poi sarà la chiusura ideale contro Bielsa, il suo maestro, qua a Madrid tra l'altro, perché poi la casualità doveva essere anche al Bernabeu, poi però, siccome dovevano mettere a posto i bagni, il Bernabeu non gliel'hanno dato. Hanno trovato la scusa, dai. Esatto. Guarda, devo rifare il bagno. Abbi pazienza. Esatto, così gli ha detto così, devo rifare il bagno. A baschi e catalani, voglio dire. Senti una cosa, ma invece il diavolo come sta? Della qua santa abbiamo parlato, ma il diavolo come sta? Diavolo, io, faccio fatica, ultimamente faccio fatica a digerirlo, perché c'è questo silenzio, cioè non può mandare in sala stampa Caracca, dai, insomma, è veramente una cosa deprimente. E poi ieri Caracca è una figura veramente patetica ieri, che viene a dire la Liga esisteva prima di Guardiola, esisterà dopo, ma ha giocato anche con te in nazionale, sono tuo compagno, ma di tre parole in croce, mezze finte, però non fagli un complimento così, no? E mi sembra tristissimo, Caracca è veramente una tristezza infinita. E Mourinho non so perché insiste con questa cosa, ormai non c'è più polemica, il campionato è finito, ma viene in conferenza stampa, dai. Oggi si è beccato qualche fischio, questa è una riflessione, fatti qualche domanda, caro Mu, perché oggi a un certo punto, giornata di festa, così, partita a mezzogiorno, gli ultrasurri intonano il canto per lui e il resto dello stadio ha fischiato, non tutto, però insomma si è sentito. Beh, d'altra parte, in finale di Champions League a Monaco di Baviera ci saranno i padroni di casa. Mica lui che l'altra sera era comunque lì inginocchiato. Ovviamente apposta per farsi fare le foto, dai, cioè, sì. Sicuramente. Atteggiamento studiato. No, perché è venuto così al momento, sì, sicuramente non ci ha pensato, no? Una cosa però su Mourinho, che dopo la partita con il Bayern gli chiedono, vabbè, questa eliminazione sarà la spinta per restare a Madrid e provare a vincerla, e lui ha detto, sì, vabbè, però se anche vinciamo questa Liga comunque rimane una cosa molto importante, tutto sommato, come a dire, vabbè, il mio l'avrei anche fatto, insomma. No, ma e poi aspetta, ma quello che dice dopo del club, che lo paragona a una macchina degli anni Ottanta. Cioè, voglio dire, dice sì, qua è come una macchina degli anni Ottanta, che non è nel 90 o nel 2000 non è mica più tanto nuova o bella così. Dice qua bisogna svecchiare, così se me lo fanno fare bene. Cioè, vuole ancora più potere, che già praticamente gli manca solo la fortuna di Florentino. È incredibile. E perché porre limite alla provvidenza? No, è... Cioè, gli ha dato una botta, capito, alla fine al Madrid, insomma, non è che sta allenando, con tutto rispetto, insomma, l'Avellino, e sì, gli ha detto no, ma questo per esempio è un club vecchio, qua bisogna dargli una bella rinfrescata, e quindi gli fanno i bagni, giustamente, quindi ha cominciato dai bagni e quindi così cominceranno da lì, però insomma anche lì veramente la platea è rimasta un po' così, dice quindi praticamente vuole ancora più potere. Certo, no, ma perché basta con questi parrucconi, basta, diamoci una botta di modernità. Cioè, allora lì c'è Pardessa, che non con te, Butragueño, che stanno lì tutti messi un po' di sparte così. Alla fine c'è quello che poi lui considera suo amico, il direttore generale, che è José Ángel Sánchez, e poi c'è Florentino, basta, c'è più nessuno. Per cui non so. Vuole la poltrona di pelle umana, dai, lo sappiamo benissimo. L'abbiamo scoperto. Grazie Filippo. A voi un abbraccio. Alla prossima, grazie Filippo. Maria Ricci, Giovanni da Napoli, abbiamo pochissimo tempo. Giovanni, dica. Buonasera, sarò molto breve. Senta, io sono di Napoli, però sono tifoso del Milan. Sì. Io nulla togliendo alla Juve di Conte, per il gioco, per la mentalità che gli ha dato, l'aggressività e tutto. Riapro una polemica. No, a quest'ora. No, riapro una polemica. Quale? Per quanto riguarda il gol di Puntari contro la Juve, per me, io sono d'accordo totalmente con Allegri, ha condizionato il campionato. Sì. Sia mentalmente i giocatori li ha distrutti, che poi gli infortuni e tutto quanto, nulla togliendo, ripeto, alla Juve. Giovanni, guardi, a quest'ora è tardi per aprire questa polemica, peraltro non inedita, già sentita qualche volta. Il gol c'era, il Milan però lo scudetto l'ha perso, secondo me, dopo quel gol, e non per colpa di quel gol, nel senso influenza sui giocatori, eccetera, eccetera. Perché se perdi in casa con la Fiorentina, pareggi con il Bologna e perdi tutti quei punti per strada, normale che una squadra che sta volando come la Juventus ti venga a prendere e a superare. Pietro Scibetta, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Giorgio De Luca in redazione, Fabio Cantadori in regia, ci sentiamo alle 8:30 per il basket.